È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Tu vecchia mutanda, tu con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio Como. E iniziamo così con le mutande, caro Parenzo, qui in diretta da Roma con la Zanzara, 800 24 00 24, proprio nel momento in cui Silvio Berlusconi dice che siamo come nella DDR, nella ex Germania Est, e cosa che ci ricorda quel meraviglioso film Le vite degli altri, certo. Le vite degli altri. Forse, cioè, l'ha visto in televisione, gli è venuto in mente sto paragone ardito. No, attenzione, io so sì? con certezza che Berlusconi ultimamente si è fatto dare questo film. Addirittura? Sì, sì. Da sì. proiettare nella sala sua di Arco. Quello non lo so. Dove vedeva Maria, nella stessa sala dove vedeva Maria. Non lo so dove l'ha visto, ma si è fatto dare questo film che pare non avesse visto prima, se l'è fatto dare. Ecco. Ed è impazzito per questo film. Tanto da consigliare a Mediaset di mandarlo in onda. Beh, questo ha fatto benissimo. Si conferma un bravo editore, ma un pessimo politico. E lo stesso Berlusconi dice agli amministratori del PDL che l'UDC deve andare fuori da tutte le giunte a livello locale. Ecco, questa è una cosa. UDC. A proposito di mutande, Giuliano Ferrara farà una manifestazione, una contromanifestazione, credo sabato? Sì, sabato a Milano. Al Teatro Dal Verme, sì. Lo stesso Giuliano Ferrara, oggi in un'intervista mandata in onda durante il programma di Andrea Vianello, Agorà, dice che Berlusconi non ha condotto una vita sobria, ci ha lasciato in mutande, però... ci ha lasciato in mutande i suoi sostenitori, i suoi simpatizzanti per sì. la sua condotta morale, però sono peggio quelli che lo vogliono buttare giù per la sua vita privata. Sentiamo. Il Presidente del Consiglio non ha condotto una vita sobria negli ultimi anni. E, diciamo, da questo punto di vista ci ha messo tutti un po' in mutande, noi i suoi sostenitori e i suoi amici. Questo non ha niente a che vedere col fatto che il problema non è lui. Con l'elastichino. Ma secondo Ferrara, i suoi oppositori che lo vogliono trascinare nel fango, lo vogliono eliminare per la sua vita privata. A proposito di quello che succederà il prossimo fine settimana, io dico sempre piazze sì. piene, urne vuote. Questo riguarda sia i sostenitori di Berlusconi sia gli oppositori di Berlusconi. Sentiamo Giovanna così. Melandri, una di quelle scatenate negli ultimi giorni sulla moralità, sui modelli di vita, eccetera eccetera, deputata del PD, donna naturalmente, la quale dice le piazze saranno invase. Domenica 13 le piazze italiane saranno invase. Io sono sicura, invase. Oh, invase. Souvenir di gioventù. Il grande Ostellino, Piero Ostellino. Sentite, se sposi un ricco sei una puttana, se sposi un operaio sei virtuosa. Alla manifestazione della donna che verrà usata contro il governo, ci saranno molte donne, alcune delle quali hanno sposato degli uomini ricchi, magari anche più vecchi di loro. Sono tutte puttane? Sono soltanto donne virtuose quelle che hanno sposato l'operaio di Sesto San Giovanni? Ma non facciamo ridere. Oh, c'è anche la particolare teoria, mentre il decreto sulle intercettazioni pare sia caduto, la singolare teoria del ministro Romani, il ministro dello sviluppo economico, il quale sostiene che siccome la gente oggi ha paura di essere intercettata, quelli che fanno affari sono Alitalia e Ferrovie dello Stato. Questa è una cosa abbastanza curiosa, perché per non essere intercettate le persone vanno in aereo o in treno dove si incontrano apposta per parlare. Tu una battuta da sketch. Io ogni volta che mi collegavo con te alla Zanzara e andavo in treno non prendeva mai il telefonino, ma che parlavo? No, ma però che parlavo? No, appunto, non prendeva però mai, cadeva si, sempre. Tu si incontrano, dove sei? Sono in treno. No, ma la teoria è diversa, cioè si incontrano sul treno, sì, e figurati. In aereo per parlare. Tu sì. vai apposta in treno per non essere intercettato. Ma assolutamente non posso intercettarmi quanto voglio. No, cioè, nessun problema. Non basta con questa teoria. Ma perché non è vero? Possono... perché questa idea che intercettano tutti, poi ci sta passando un messaggio, no, davvero questo bislacco, non è vero. Questo non è vero. Romani. Secondo lei questa maggioranza arriverà in qualche modo a proporre una regolamentazione delle intercettazioni. Ma io penso che sia un problema che riguarda tutti i cittadini. Guardi, l'unica fortuna vera di questo problema, che è gigantesco per tutti i cittadini italiani, è che le Ferrovie dello Stato e l'Alitalia guadagnano un sacco di soldi, perché non c'è più nessuno che parla al telefono. Si fa, ciao, ci vediamo, boom, e intanto prendo un biglietto d'aereo e prendo un biglietto del treno. Cioè, questo sta diventando il nostro paese. Beh, singolare teoria, cioè aumenta la vendita di biglietti aerei o di biglietti ferroviari perché ci sono le intercettazioni. È ministro allo sviluppo economico, evidentemente ha dei dati, fonti dirette che gli arrivano. Dati da freschi, tre... eh? Sì, sviluppo economico. Dai, su via. Dai, c'è da andare ai matti qui. Sempre romani, mi fido di Berlusconi sulla storia della nipote di Mubarak. Ah. Mubarak che sta per cadere, sta per annunciare forse le sue dimissioni. E lui si fida della versione di Barney, cioè di Berlusconi. Di Berlusconi, sì, sentiamo lo stesso Romani. Io mi fido e lo ribadisco di quello che dice il Presidente del Consiglio e non ho motivo per non crederci. Beh, io no, sinceramente no, perché ha detto delle balle micidiali, quindi lei ciascuno chiara ciascuno ha il proprio destino. E guarda che non è la balla sulla nipote di Mar, perché così gli è stata detta e così l'ha riferita. E non si usa più. E vabbè. Peraltro Berlusconi ieri aveva detto che ha voluto evitare con quella telefonata alla questura un incidente diplomatico, certo. Ed è una versione nuova, perché in realtà all'inizio di questa storia Berlusconi non la sosteneva. La concussione non c'è, perché il concusso non esiste, non ha subito nessuna minaccia. Io sono intervenuto come Presidente del Consiglio perché ero preoccupato che non potesse succedere un episodio di un incidente diplomatico internazionale, e anche per aiutare, come faccio sempre, delle persone in difficoltà. Quindi la conclusione è risibile, non esiste. Beh, anche lui non mi pareva molto convinto, inciampo un po'. Tentennava un po', tentennava nella ricostruzione, però vabbè, insomma, vabbè. È bella versione. Abbiamo in collegamento il primo ospite della serata e siamo molto contenti. Chi l'onorevole è? Maurizio Paniz, buonasera. Paniz è l'avvocato di una bomber, è stato l'avvocato che ha fatto assolvere quello che era Zornitta, stato... l'ingegner Zornitta. Grandissimo. Maurizio Paniz, buonasera, come sta? Sto benissimo, grazie. Conosciuto buonasera. In Parlamento anche per essere il presidente dello Juventus Club Montecitorio, mica robetta. Questo, Nessuno è perfetto. Come nessuno sono è perfetto? Molto orgoglioso di questo incarico. Più orgoglioso, Juve, più orgoglioso la Juve di questo. È la squadra più titolata ed è la squadra che ha più tifosi in Italia. Quanti scudetti ha vinto la Juventus? Mi risponda a questo e poi per vediamo se. Mi riguarda 29, per gli altri 27. Benissimo, ecco. Allora lei è un perfetto juventino. Capito? Questo, sì. È uno juventino doc. E abituati a rubare. Beh, sì. No, ma lascia perdere queste storie. Vabbè, ma sei pazzo, sei impazzito. No, non è vero. Non raccolgo, non raccolga. Sorrido e non raccolgo. Ma con Parenzo, lei non lo conosce di calcio, non capisce nulla, per cui non si interessa nemmeno, non penso sa nemmeno. Penso anch'io. Ma non sa nemmeno. Qualcosa di Moggi ho letto anch'io, comunque, qualcosa di Moggi ho letto. Ma non addentriamoci in questo. Credo che non abbia letto tutto, probabilmente si è fermato al 2006 invece che leggere anche il 2007, 2008, 2009. Bravo Paniz, bravo. Secondo lei Moggi dovrebbe tornare a fare il dirigente sportivo, signor Paniz? Secondo me sì. Questo mi sembra cosa buona e giusta. Cioè, secondo lei la radiazione è sbagliata e Moggi era un grande dirigente sportivo? No, la radiazione fino adesso non c'è stata. No, appunto, siccome c'è una proposta di radiazione. Ah, beh, le proposte ce ne sono tante di tutti i generi. Secondo me Moggi è stato un efficiente dirigente sportivo e io credo che se anche dovesse essere stato legittimamente condannato, alla fine della condanna, come tutti i condannati, ha diritto a riprendere la strada che aveva prima di essere condannato. Questo è un principio che è scritto nella nostra Costituzione, perché se vale nel diritto ordinario, che sicuramente è un po' più significativo del diritto sportivo, non debba valere per il diritto sportivo. E in tribunale, secondo lei, le accuse sono campate in aria? Associazione a delinquere, questa roba qui, per quello che riguarda Moggi? Beh, già sono state campate in aria le accuse che sono state fatte a Torino, dove è stato totalmente assolto dai reati di carattere societario, eccetera. Sì, è stato assolto a Roma nel processo che pure lo vedeva imputato di reati molto gravi. Gli rimane il procedimento di Napoli. Mi pare peraltro che i dati che noi abbiamo a disposizione, secondo le informazioni giornalistiche, siano dati fortemente confortanti, quindi io auspico che ci possa essere per lui una soluzione. Se ci fossero tutte assoluzioni in sede penale, forse anche la giustizia sportiva può fare un piccolo mea culpa, perché è stata forse un po' troppo frettolosa nel decidere in senso così. Ma me lo dica chiaramente, secondo lei fu un golpe quello del 2006, un golpe contro la Juventus? una sorta secondo di me, secondo me c'è stata una fortissima esagerazione e la Juventus ha subito e pagato per molti altri. Senta, un'ultima cosa, poi passiamo alle cose diciamo serie, non che perché che queste non siano serie, no, perché sono, Agnelli, sono serissime, no? Secondo lei lo vedrebbe, lo vorrebbe un ritorno di Moggi alla Juventus? Questo è un problema su quale io non mi pronuncio perché riguarda mi sia sul calcio, non mi sia, non mi sia diplomatico, Paniz. No, no, qui non c'è nessuna diplomazia, no, ho già attestato la mia stima nei confronti di Moggi ed è una stima che non ho nessuna difficoltà a riconoscere pubblicamente, però io stimo altrettanto e anzi molto Marotta, naturalmente stimo il presidente Andrea Agnelli come ho stimato il dottor Cobolli, io credo che di fronte a dirigenti che la Juventus ha in questo momento sia inopportuno parlare di sostituzioni perché sarebbe discriminante nei loro confronti. Senta Panis, tornando invece a cose che riguardano sempre vicende giudiziarie, ma Berlusconi, oggi si prospetta da parte del ministro Frattini addirittura un ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo per violazione della privacy e sarebbe il primo capo di governo a farlo mentre ancora ricopre l'incarico. Secondo lei è una strada che si può percorrere? È una strada di forte intelligenza, nel senso che ha estremi mali, estremi rimedi. Fino adesso di questo non si è mai parlato, però è certo che in Italia vi sia una forte esagerazione nella diffusione di notizie che dovrebbero rimanere segrete. Ma dove si può arrivare con questa, con questo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Una condanna dei magistrati, secondo lei, sarebbe auspicabile? No, guardi, da me non sentirà mai una parola contro i magistrati perché non l'ho mai detta nemmeno. Cioè la Boccassini, perseguita a Berlusconi? Secondo me non, io non mi posso permettere di dire che perseguita Berlusconi perché questo va oltre il mio modo di vedere le cose. Berlusconi lo dice però. Berlusconi siete un perseguitato da Ilda La Rossa, dice. Scusi, io le esprimo le mie opinioni in termini molto chiari. Sì. La mia opinione in termini molto chiari è che complessivamente la Procura della Repubblica di Milano nei confronti del Presidente Berlusconi abbia posto in essere delle iniziative fortemente persecutorie. Questo lo dico in senso generale, non personalizzo assolutamente mai. Ho capito, mai però se lei dice questo significa noi come dire, arriviamo alla conclusione che in questo caso l'inchiesta condotta da Boccassini, Forno e San Germano è un'inchiesta persecutoria, sì o no? Io arrivo alla conclusione che questa inchiesta sia un'inchiesta esagerata e che non ci sia nulla di penalmente rilevante. Escludo che ci sia il reato di concussione, escludo che ci sia il reato di atti sessuali con minore. E questa è la mia opinione. E questo non è, la persecuzione non c'è in questo caso? Non posso permettermi di dire perché non voglio personalizzare l'accusa. Perché lei rispetta quando la magistratura? Dice, scusi, quando lei si rispetta dice, la magistratura su un piano sostanziale? Io rispetto sempre la magistratura, l'ho rispettata in tutti gli anni della mia attività professionale, la rispetto ancora oggi, questo però non mi impedisce di dire che questa, questo trattamento è un trattamento sicuramente dal mio punto di vista ingiustificato ed esagerato. Ma da Germania orientale, come dice Berlusconi, come ha appena detto Berlusconi? Questa è una frase colorita, io mi permetto di dire che separare le posizioni, per esempio portare il presidente Berlusconi a giudizio immediato e non portare a processo negli stessi tempi gli altri imputati, sia utilizzare un trattamento fortemente discriminatorio in senso negativo per uno dei imputati. Allora, traffico, poi affronteremo la questione di Mubarak, della nipote di Mubarak, perché lei qualche giorno fa in Parlamento ha sostenuto questa tesi, cioè Berlusconi era consapevole di questo e dunque ha fatto di tutto per evitare un incidente diplomatico. Mia nonna andava in carriola. Traffico. Hai visto il libro di poesie di Brecht? Che libro? Poesie di Brecht. No, non l'ho visto. Strano, l'ho lasciato qui. Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio, pallido e quieto, tra le mie braccia come un dolce sogno. E su di noi, nel bel cielo d'estate, c'era una nube che io mirai a lungo. Bianchissima nell'alto si perdeva. Tu vecchia mutanda, tu... Beh, era un pezzo delle vite degli altri. Mi risulta che Berlusconi lo abbia visto di recente ad Arcore. Forse ieri sera su Rai 2, più semplicemente. No, prima di Rai 2. Sì? Prima. Forse l'ha consigliato lui a Rai 2. Secondo me lui ieri era a casa, l'ha visto, ha chiamato, fallo detto, guarda c'è questo bel film che ci può servire, mandalo. Fallo non lo so, io, a me risulta che l'ha visto qualche giorno fa. 800 24 00 24, lei è davvero convinto, onorevole Paniz, avvocato, uno dei tanti avvocati presenti in Parlamento, Berlusconi abbia fatto quella telefonata per evitare una crisi internazionale, un incidente diplomatico? Sì, sono convinto al 100% e mi confortano le prove che io ho raccolto. Io non faccio valutazioni. Come prove di tipo... che hai raccolto? Prove? prove che ho raccolto. Anche lei fa le indagini difensive? No, prove che ho raccolto, nel senso che ho visto in Parlamento quando sono arrivati gli atti. Io non mi permetto fare il difensore e non voglio fare il difensore. Io faccio il capogruppo del Popolo della Libertà nella Giunta per le autorizzazioni, guardo gli atti che ci sono, raccolgo gli elementi che in questi atti sono contenuti, alla luce degli elementi che sono stati messi a mia disposizione, io ho maturato questo convincimento. Però mi scusi, all'inizio No, ho capito, però all'inizio di questa vicenda Berlusconi ha detto delle cose completamente diverse. Per esempio, ha detto: di questa persona mi è stato rappresentato un quadro tragico, ho tentato di aiutarla. La stessa Minetti ha detto: Ruby disse di essere la figlia di una cantante egiziana, che non è proprio la nipote di Mubarak. Dopodiché Le due cose non sono conflittuali. Cioè, le affermazioni iniziali di Berlusconi o della Minetti su questo non sono conflittuali non con quello che. Non c'è nessun tipo di conflittualità. Ma come? Essere povero, essere in difficoltà, avvocato, essere in difficoltà, essere cantante, essere nipote di Mubarak, tutte le tre cose insieme mi pare un po' eccessivo. Non sono... Comunque. Potranno sembrare eccessivo, ma non sono per nulla conflittuali. Lei deve guardare le carte che ci sono giunte e deve guardare le carte con obiettività. Ma chi l'avrebbe detto a Berlusconi? Chi l'avrebbe detto a Berlusconi di essere nipote di Mubarak? Lei, qualcun altro? Chi gliel'avrebbe detto? L'hanno detto varie persone, non solo la ragazza, l'hanno detto anche altre amiche della ragazza che sono state sentite. Che sì, la brasiliana. La brasiliana, la brasiliana che aveva il cellulare di Berlusconi sapeva che quella era la nipote di Mubarak. Dai, è un po' una cosa ardita, avvocato. Ma lo dico con rispetto, con rispetto. Inverosimile, ma ci sono tante cose nella vita che possono sembrare inverosimili. Si ricordi che 3 anni fa, quando io un certo giorno ho detto, nei confronti proprio dell'ingegner Zornita che lei ha citato poco fa, secondo me l'ingegner Zornita è innocente e ci sono delle prove che lo scagionano, e tutta l'Italia pensava esattamente il contrario, non c'era uno solo che scommetteva un euro sulla sua innocenza. È una cosa un po' diversa. No, non è una cosa un po' diversa. Cioè, Berlusconi come Zornita. Berlusconi come Zornita. No, guardi, i processi si fanno sulle carte processuali. No, appunto, lei sta facendo un paragone tra Berlusconi e Zornita. Anche Zornita, per quanto mi riguarda, è un ottimo paragone. Ah, beh, no, questo qua è interessante. Berlusconi come Zornita, cioè tutta l'Italia pensava che fosse colpevole, e la stessa cosa si può dire con Berlusconi per quello che riguarda la telefonata, eccetera, eccetera. Per quanto mi riguarda, sì, e guardi che non glielo dico sparando a caso, perché non ho nessun interesse a sparare a caso, lo dico perché sono convinto e ho guardato le carte. Lei naturalmente ha tutto il diritto di non crederci e io rispetto il suo diritto. No, di ma non è che io non ci credo, sa, è anche complicato pensare, anche se Berlusconi, mettiamo che sia vero, no? Berlusconi era convinto che fosse la nipote di Mubarak, fa quella telefonata per evitare una crisi internazionale. Dopodiché la affida alla consigliera regionale, che a sua volta la affida ad un'altra persona. Non è anche così. Questo, la nipote di Mubarak viene affidata ad una persona, consigliera regionale, non alla quale la affida una che pare non faccia la prostituta, pare. Non è così. Come non è così? Berlusconi? Scusi, non è così, non è Berlusconi che ha affidato nessuna persona, ma scusi, lei ha parlato proprio di questo aspetto, perché il pubblico ministero del Tribunale dei Minori, se riteneva che ci fosse qualche cosa di illegittimo, poche ore dopo, pochi minuti dopo, la giornata dopo, quando è stata informata del fatto, non è intervenuta? No, mi scusi, se fosse davvero, io voglio dire un'altra cosa, se fosse davvero la nipote di Mubarak, una volta uscita da quella questura, si mobiliterebbe l'ambasciata egiziana? Ma il consolato egiziano che a Milano c'è, cioè, che mi sembra una cosa inverosimile che poi venga affidata ad una persona, la consigliera regionale, la quale a sua volta la affida, cioè comunque scusi, sono due i passaggi che lei fa. Il fatto che venga affidata a un consigliere regionale, secondo me, non ha nulla di illegittimo. No, ma se poi c'è stato un passaggio successivo, su questo passaggio successivo era giusto che ci fossero delle verifiche. Ma le sembra verosimile? E se qualcuno non ha fatto queste indagini, è troppo facile parlarne dopo 7-8 mesi. No, però mi scusi. Dovevano intervenire un minuto dopo. Onorevole Paniz, mi scusi. Secondo lei, la nipote di Mubarak è una che vive in quel modo? Scusi, una nipote di Mubarak può anche vivere in quel modo. Abbia pazienza, non è questo il problema, non è come una persona vive. Il problema è di valutare se il presidente Berlusconi fosse o non fosse convinto dell'identità personale, o comunque non occorre che ne fosse totalmente convinto, occorre che avesse dubbi. Il momento stesso in cui aveva dei dubbi sulla reale identità ha fatto benissimo a intervenire. Ma ci ridono dietro per questa cosa in tutto il mondo, su questa cosa della nipote di Mubarak? Non ridono dietro per questa cosa in tutto il mondo, ridono dietro per come viene prospettata questa cosa, come ridevano dietro per quanto riguardava il mia affermazione che l'ingegner Zornita sarebbe stato dichiarato innocente. Ma a un certo punto ha anche negato di aver fatto la telefonata. Ma scusi, hanno riso tutti 3 anni fa, mi perdoni, 3 anni fa hanno riso tutti e tutti mi dicevano: ma come? La polizia, i carabinieri, l'FBI, le procure della Repubblica, gli investigatori, nessuno sottolinea una cosa di questo genere, eppure lo abbiamo scoperto. Le pare poco? Berlusconi come Zornita. Grazie, onorevole Paniz, buona serata. 18:55:20, stia bene anche lei. Ci sentiamo dopo il GR. Abbiamo scoperto stasera una nuovo paragone, una nuova teoria. Come Zornitta tutti quanti pensavano fosse colpevole di essere una bomber, adesso c'è Berlusconi nelle vesti dell'ingegnere Zornitta. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Eccoci qui, caro Parenzo, di nuovo in diretta dopo l'onorevole Paniz, che ha paragonato la vicenda Berlusconi addirittura a quella di una bomber. Vedrete, ne uscirà fuori come ho fatto con Zornitta. Con Zornitta, va bene, ma insomma, vedremo. Naturalmente, 800 24 00 24, direi di far sentire ai nostri ascoltatori, anche un altro ospite che ci ha raggiunto, come il TG3 di Bianca Berlinguer riassume la giornata. Sentiamo. In Egitto improvvisa accelerazione della crisi, ridda di dichiarazioni su imminenti dimissioni di Mubarak, l'esercito arbitro della situazione. Berlusconi contro le inchieste, sono un golpe morale, degne della Germania comunista, io resisto, l'ultimo mio giudice è il popolo. Il presidente della Consulta Reserva, offensivo dire che siamo di parte, Vietti, Consiglio Superiore della Magistratura, i giudici applicano le regole. Finocchiaro dalla maggioranza mosso e disperate, pur di salvare il premier, fini l'agenda politica è vuota, ma la ricreazione è finita. Rubi, forse già lunedì la decisione sul processo al premier, in tante allarme e infrazioni negli uffici di 3 GIP del Tribunale di Milano. I presidi contro la Gelmini, nell'anniversario dell'Unità d'Italia le scuole vanno chiuse, il ministro in quel giorno studiare la storia. Per le gemelline scomparse si fa strada l'ipotesi dell'avvelenamento, il papà aveva consultato siti sull'uso di veleni e armi. Tu vecchia mutanda, tu, con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio Como. Quanta nostalgia. La signora Maiolo, che giustamente è arrabbiata, e credo che dovrebbe esserlo soprattutto con se stessa dopo le dimissioni da portavoce di Futuro Libertà a Milano, successive alla sua ospitata qui alla Zanzara, le sue frasi sul paragone, i cani, i rom, eccetera, se la prende un po' con Parenzo, perché sostiene nella sua pagina Facebook che il signor Parenzo qui presente, e forse anche il sottoscritto, hanno storpiato le parole. Questo è quello che ha scritto su Facebook, ma in realtà, come dire, carta canta in questo caso, e la registrazione canta, e risentiamola allora. No, i rom sono assolutamente ingestibili. Io ho fatto 5 anni di assessore alle politiche sociali. Sì. Tutte le etnie sono integrabili tranne i rom. Dunque non sono integrabili? Non sono assolutamente integrabili. Perché? Mi spiega perché? Perché non hanno la cultura del lavoro. Quindi loro non vogliono assolutamente lavorare. A noi ci odiano e pensano soltanto a sfruttarci. No, veramente. Ci chiamano gagge, non so quella parola lì. Poi come non tratta? Hanno, i bambini come non hanno il senso dell'igiene. Non nel senso dell'igiene, i bambini fanno bambini perché li mandano a rubare, perché poi soprattutto minori di 14 anni non sono imputabili in nessun modo, e in molti casi avviano i bambini alla prostituzione minorile. Addirittura. Con l'elastichino. E poi la frase sui cani. Ma fanno la pipì sui muri, neanche il mio cagnolino la fa sui muri. Beh, questo solo cioè, lei ha detto alberi. Una cosa di una gravità assoluta, paragone che fanno il suo cagnolino sui muri. Che è più educato, il suo cagnolino dei rom, è una cosa pazzesca. Cioè è più facile educare un cagnolino dei rom, ma è una cosa vergognosa. No, ma per niente, il mio cagnolino è più facile, è un umano. Educare il cane della Maiolo che una persona. Ma è una cosa, beh, che fa schifo. L'esperienza Tiziana. Diretta, perché Maiolo fa schifo. Perché Maiolo l'ha educato. Ma non si può dire che è più facile educare un cane di un uomo. I Cruciani, ma lo capite o no? I cagnolini e i bambini, se tu li educhi, dopo sono educati. Se nessuno li educa, non sono educati. Non capisco cosa ci sia da contestare. Cioè, è evidente che ha detto le cose che ha detto, ma per niente, non è folle per niente. Non voglio infierire. Dico solo due, perché poi si dice tu hai la disponibilità di intervenire alla radio, invece. Allora, dico solo due cose. Uno, perché ha chiesto scusa? Perché all'ANSA, due ore dopo, lei ha detto ho sbagliato, chiedo scusa. E perché si è dimessa? Cioè, se uno. Io riconosco comunque l'onore delle armi a Tiziana Maiolo, che ha fatto tante battaglie importanti per i carcerati, per i più deboli, per gli anziani a Milano e quant'altro. Certo. Questa volta secondo me ha sbagliato, forse si è fatta prendere la mano dal contesto, ma ha sbagliato. Poi onore, perché si è dimessa in un paese in cui non si dimette nessuno e si invoca addirittura la DDR per le intercettazioni. Onore a Tiziana Maiolo, guarda cosa arrivo a dire, onore a Tiziana Maiolo, anche se sul paragone coi cani ha sbagliato. Stop. Bene, 800 24 00 24, con noi il ministro dell'attuazione per il programma Gianfranco Rotondi. Buonasera. Buonasera, salve. Come sta? Elegantissimo, con un maglioncino sgargiante. Elegantissimo, direi di no. Noi siamo chic, giacca e cravatta, e il ministro col maglione. È un uomo chic, Rotondi. Sono venuto sportivo come a casa mia. Certo, la radio si può aprire anche così. Certo, da Ballarò non andrebbe così, insomma, diciamo. Perché no? No, giacca e cravatta su Rotondi, non dica così, ministro. Ma se mi capiterà, vuol dire che terrò presente la parte condicio. E però, devo dire, si è presentato con un cappottino color cammello, di cui possiamo rivelare anche la marca? Ma non lo so, perché so se... Si può rivelare, so nemmeno io, sinceramente. Non facciamo una bella marca. Una bella marca di queste qua, molto elegante, devo dire, cappotto elegante. Chic, per quello ho detto chicchissimo. Vabbè, adesso in questo momento c'è un maglione normale, no? Cashmere? Come dire? È un regalo, quindi. Cashmere. Sì, è un regalo, non li compro, ma se me li regalano, non è un crimine. In questo caso è un regalo anticipato, perché è il San Valentino. Ah, della moglie? Sì, anticipato. Un regalo, maglione di cashmere. Le mogli sono sempre risparmiatrici, dice viene il 14 febbraio, lo do prima, così lo mette. Così, ecco. Va bene, siamo qui e voglio subito chiedere al ministro Rotondi una cosa. Secondo lei è possibile fare un ricorso alla Corte di Strasburgo sulla privacy? Mi sembrano delle cose un po' avventurose, francamente, o no? Premesso che io non ho mai fatto l'avvocato, e quindi uno deve dare sempre risposte tecnicamente pertinenti, ed io non sono in grado di farlo. Però che vi sia un'emergenza democratica e che la risposta del governo e del nostro presidente possa essere anche in termini giuridici, io questo lo trovo legittimo. L'emergenza democratica, lei cosa si riferisce? Cioè, Berlusconi ha ragione quando dice che noi ormai i magistrati si comportano come la polizia segreta nella DDR? No, il plurale secondo me non sta bene, nel senso che dire i magistrati, la Boccassini, non mi pare che sia corretto, perché se quelli che conducono questa inchiesta è stata condotta con un uso di mezzi sproporzionato totalmente, persino alle imputazioni che i giudici suppongono. Questo è vero. Non credo che sia giusto generalizzare, perché la gran parte dei magistrati italiani non solo rispetta le leggi, le applica, non solo è in una condizione tecnica difficile, senza mezzi, spesso con uffici molto al di sotto delle necessità. Ma devo dire che moltissimi di questi magistrati condividono le nostre preoccupazioni sulla giustizia e votano per il centrodestra. Quelli avversivi chi sono? E per Berlusconi. Ecco, secondo me bisognerebbe avere la capacità di individuare dov'è l'eversione, o meglio, dov'è il deraglio dal corretto rapporto tra politica e chi lei sono? Dov'è l'eversione? Chi sono? Ma io mica sto presiedendo una commissione d'inchiesta, che pure è stata proposta per la verità a suo tempo. Trovo che vi sia stato in questi anni una raffica di proposte, ma un approccio estremamente bonario al tema, perché da una parte noi diciamo ci sono i magistrati colpisti, ci sono i PM d'assalto, ci sono quelli che tirano fuori le intercettazioni, che le passano ai giornali, i processi sommari, tutte queste cose qui, però è oggettivo che, avendo noi avuto il governo più volte in questo ventennio della transizione infinita, non è che l'abbiamo fatta ancora questa riforma. E che cosa bisogna fare allora concretamente? Secondo me bisogna por mano a una riforma complessiva della giustizia, con l'approccio giusto, che è quello usato dal ministro Alfano, di un dialogo con tutte le parti, a cominciare dalla magistratura, che poi è applicata su questi temi ed è protagonista. Gli eversori, per esempio, devo dire, è una colpista. Più questo che individuare dov'è l'eversore, trovo che sia necessario partire da dove è avvenuto il deraglio, non nel 94, cioè quando Berlusconi è sceso in campo. Quella è stata la prosecuzione. Il deraglio è avvenuto nel 92, quando le procure di Milano e di Palermo del tempo hanno deciso di sciogliere per via giudiziaria la prima riforma. Oggi non c'è nessun deraglio. Però. Ora però io voglio capire, no, evidentemente per il ministro Rotondi c'è ancora un deraglio. A mio avviso vi è un uso politico di un'inchiesta. Senz'altro. Cioè Boccassini fa un uso politico di un'inchiesta. Ma io non personalizzerei. Beh, perché sono loro non è solo la Boccassini. San Germano e Forno. In ogni caso, l'uso politico non è detto che avvenga ad opera dei magistrati che indagano, perché vi può essere una tecnicalità, una capacità tecnica di far uscire fuori determinate notizie, determinati testi, contenuti di intercettazioni, e magari l'inchiesta viaggia nell'ambito della correttezza e finirà, come io ritengo, anch'essa, puressa, con la chiarificazione della estraneità del Presidente del Consiglio ad ogni ipotesi di reato. Questo lo deciderà il GIP tra poche settimane. Anche se domani mattina si dicesse Berlusconi non c'entra nulla, come è, il danno internazionale fatto all'Italia è colossale, e di questo non risponderà nessuno. Allora, 800 24 00 24, andiamo a sentire un ascoltatore che ci chiama da Modena. Massimo, buonasera. Bene. Dica. Bene. Buonasera. Sì, dica. Io volevo fare una considerazione sull'affermazione di Berlusconi, che era nipote di Mubarak, eccetera. Sì. Io penso che se effettivamente lui ha creduto una panzana del genere, lui è ancora più pericoloso, cioè, perché non è possibile che un Presidente del Consiglio sia così fesso. E questo è un tema interessante, perché qualcuno l'ha scritto, cioè se davvero ha creduto alle parole di Rubio o di qualcun altro che la signorina era nipote di Mubarak, forse c'è un problema ulteriore che riguarda la affidabilità di Berlusconi da questo punto di vista. Ma sentiamo la borsa e torniamo subito con il ministro Rotondi proprio sulla questione di Mubarak, perché è interessante, cioè la versione è cambiata. All'inizio Berlusconi e alcune persone vicine a Berlusconi sostenevano che Berlusconi aveva dato la mano ad una persona che conosceva, che era in grandi difficoltà, e non c'era l'idea o comunque la teoria che fosse la nipote di Mubarak. Subito dopo invece, è saltata fuori così, nipote di Mubarak. Ci sentiamo tra qualche istante. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Mi dicono che Tremonti ha parlato di moscerini. Intanto le piramidi di Cheope rimbombano. Cheope, Chefre, Micerino. Per la storia di Mubarak. Dov'è questa storia di Tremonti e dei moscerini? Abbiamo Tremonti o i moscerini in audio? Informatevi su Regia Milano 800 24 00 24. Questa è la Zanzara in diretta da Roma con il ministro Gianfranco Rotondi, ospite qui da noi. E le chiedo subito, ministro Rotondi, prima di interpellare altri ascoltatori, ma lei davvero crede a questa storia di Berlusconi, consapevole che la ragazza Ruby fosse la nipote di Mubarak, e dunque quella telefonata per evitare una crisi internazionale? A me sembra francamente una baggianata. Ma premesso che una telefonata, se tu conosci uno e reputi che non è un delinquente e si trova in una situazione impicciata, puoi anche fare un intervento per dire mettete attenzione perché magari c'è un equivoco, questo non significa perché proprio con una ragazza, violare, con una ragazza non significa violare le leggi, ma né in quel caso parlavamo di una persona che delinqueva in apparenza. Lei l'avrebbe fatta quella telefonata? Ma io, se conosco una persona e mi dicono guarda che è stata fermata per un equivoco, per un incidente, io faccio una telefonata e chiedo che cosa è successo. Dice solo il ministro Rotondi, no, liberate la ragazza. Se conosco, perché è presupposto che Berlusconi comunque conosceva l'interlocutore. E perché la conosceva, secondo lei? Io reputo sinceramente, se questa persona è andata, ha partecipato a queste feste, o comunque era segnalata da persone, io trovo che... Dunque lei non è come Formigoni che dice che non si sa se queste feste siano mai esistite. Se ma io guardi, sulle feste io mi sono formato un'idea che peraltro non ho dichiarato qui per la prima volta, ma l'ho detta a un giornale certamente non berlusconiano, il fatto, come il sì. Fatto. Sì. È molto semplice spiegare una cosa che pare quasi tra il peccaminoso e l'illegale, mamma mia, dobbiamo andare a fare l'ispezione da come si chiama quello, Spinelli, i bonifici, Berlusconi che fa i bonifici. Allora, premesso che uno che paga una prostituta mica gli fa il bonifico, gli darà i soldi cash, già la forma del bonifico, voglio dire, già è chiaro che non parliamo del reato che ipotizza la Procura di Milano. Ma dico di più, quando ognuno di noi fa la festa ai bambini e chiama l'animatore, l'animatrice... No, non tiri fuori la festa ai bambini. No, voglio dire, gli paghi l'onorario o no? Ma come la festa ai bambini? No, non erano feste per i bambini. No, non faccio paragoni d'ambulanza. Parlo del concetto giuridico, non parlo di un paragone tra le due feste. Chi fa una festa a casa sua cioè, e chiama l'animatore... Cioè, loro erano delle animatrici, delle animatrici dell'Arci. Chi chiama l'animatore a casa per una festa di bambini, di grandi, di vecchi, in ospizio, dove che sia, chi va a fare... l'animatore o lo spettacolo, rotondi due punti, quelle erano delle animatrici, ma mi per pare una abbastanza festa. Chiaro nel senso chiaro. Che erano persone che animavano la festa e questo sicuro la animavano dal punto di vista artistico venivano poi pagate per quello per che avevano ballare, fatto chi per... ballava chi cantava sinceramente che poi uno è una grande ricostruzione. Posso dire che è una grande ricostruzione? No, mi pare così veritiera, semplice. Possiamo anche dire che le pecore volano e che Moana era vergine. No, assolutamente sì, assolutamente dire. Io trovo che Moana era vergine, chi no? ha l'abitudine e non ce l'ho io né nei mezzi né tutto sommato nel gusto di farlo di organizzare a casa sua delle serate anche con un contenuto spettacolare, io trovo del tutto normale che chi va a fare spettacolo se lo fa pagare, quindi c'era un'organizzazione che si occupava di questo. Però, no, è curioso, però, ministro, dovrebbe esserci lei più vicino a Berlusconi forse che non Ghedini e Longo. No, ma io lo, non perché lei gli ha suggerito una tesi difensiva molto acuta. No, non è una tesi difensiva, è una verità hanno evidente. Sempre negato, lui ha sempre detto non ho mai pagato nessuno alle feste. Certo invece che non, lei no, dice no, che erano Berlusconi delle animatrici ha di feste. Detto che non ha mai pagato per fare l'amore, ma del resto secondo lei è vero? Secondo me non solo è vero, ma posso dire, io sono testimone dell'assalto che c'è in tutti i comizi da parte di ragazze e di signore di tutte le età che vogliono salutarlo. Dice, ma quello è tifo politico. Beh, senza dire nulla che non sia noto, il tifo politico, quando ti mettono in tasca il bigliettino col telefono, è un tifo politico che volge abbastanza verso l'intimo. E Berlusconi va in brodo di giuggiole per queste cose, eh? Ma può darsi, ma devo dire... Ma lei non ci crede a queste prestazioni, cinque ragazze? Ognuno di noi, tutto sommato... Di farsi fare la corte gli fa piacere, ecco, ma quindi... lei non ci crede a queste cose di prestazioni sessuali plurime, cinque questa donne. Idea di un fordismo sessuale, ma ci crede? Vuoi dire, io diciamo non sono né un sessuologo e né so dire né quando vedo Berlusconi parlo delle sue prestazioni, ma certamente che sia un personaggio molto amato dalle donne e che ricambi largamente questo amore mi pare che sia un po' oltre che nella mitologia anche nella sua verità cronistica. La storia di Mubarak lei ci crede, diciamo la verità, insomma, è possibile che la ragazza abbia detto così e lui ci abbia creduto, ed è più che possibile che in base Rubi, al... la nipote di Mubarak, perché non si mobilita il consolato una volta che è coinvolta in queste storie, ma l'ambasciata perché, egiziana, perché, un inviato di Mubarak, ma che, peraltro... perché parliamo senz'altro di un uomo politico che è rimasto molto semplice negli interventi e in questo caso ha avuto una straordinaria Berlusconi, rilevanza molto ma semplice Berlusconi è un uomo semplice, è un uomo che se vede uno che ha bisogno non sta a pensare, ecco, per esempio, no, se... d'accordo, ma io l'ho chiesto un'altra cosa, se non fosse davvero la nipote di Mubarak, non voglio darvi l'immaginetta, il santino, ma sicuramente Berlusconi aiuta tutti quelli che glielo chiedono. Mi ha scritto una signora, ma questo lo sapevamo, in questi giorni anche lei un segno, mi ha scritto una signora di 82 anni della Toscana e mi ha scritto una lettera provocatoria ed ironica dicendo questo è il mio indirizzo, visto che Berlusconi è buono e dà i soldi alle ragazze, io ho 82 anni, dia qualcosa anche a me. Io posso dire che gli porterò questa lettera e se non è una provocazione o se è una provocazione ma dietro c'è un bisogno, sono sicuro che se ne occupa perché beh, seguiamo questa storia però attentamente. Sì, questa è bella. La signora di 82 anni chiede un aiuto al ministro Rotondi con un biglietto, certo. Siccome aiuta tante persone, ecco, tante ragazze, è provocatorio, eccetera, eccetera. Dice visto che l'ho sentita dire a Ballarò che il suo capo è buono, onesto, dai soldi perché alle ragazze, aiuta anche me? Io ho 82 anni, voglio vedere se me li dà a me. Ma c'è nome e cognome tutto? Certo, nome e cognome. Beh, ma seguiamola questa faremo storia, un servizio, magari anche per la sette, perché sentiamola. No? Certo, allora voglio più sapere che sentirla io credo che sia giusto aiutarla. Se ha veramente un problema, deve fare politica Berlusconi, non fare assegna ma questo persona, non c'entra ma con la politica, ma questo non c'entra con la politica, questo è l'uomo. Ma in politica ci mancherebbe altro. Tutto quello manco che fa, se, tutto quello manco che se fa, regala tutto però, il suo patrimonio, cioè, risolve il problema. Come fa a fare riforme strutturali? Sono d'accordo. Come fa a dire lei che questa cosa non è politica? Qualsiasi cosa fa Berlusconi, no, e soprattutto fare gli assegni alle persone, posso è dire, politica. Grazie a Dio, grazie a Dio, sì, di tutte le cose che Berlusconi fa e di tutto l'aiuto che dà alle persone singole, agli enti e ad altro, grazie a Dio si sa pochissimo. Perché se si sapesse di più, convengo, sarebbe propaganda un po' pelosa. Ma comunque lui lo dice sempre, io aiuto un sacco di persone, eccetera. Comunque io ho interesse a seguire noi questa vicenda. Sì, sì, no, ognuno di noi, come ci viene insegnato nel catechismo, è santo e peccatore. Ognuno di noi ha momenti di santità e momenti di... Tra l'altro Berlusconi in un'intervista al Foglio dice che io pecco, ma i neopuritani vogliono l'autoritarismo. Dunque confessa di peccare ed è forse ma la io prima ho volta, l'impressione, conoscendolo, che lui confessi più peccati di quelli che fa, meno in questo campo. Addirittura. Beh, gli piace dire che fa parecchi peccati della carne, poi magari denaro e santità metà della metà, e forse anche in questo campo. Ma la famosa frase di Sullo, che fra poco risentiremo, che è un nostro must, che riguarda il ministro Rotondi. Io sono contento, sa perché? Che la manda sempre, perché al di là che la manda con intenzioni chiaramente di simpatica derisione. No. Io le dico che il dramma è che Cruciani ci crede davvero. Rende omaggio a un grande della Democrazia Cristiana, che la Democrazia Cristiana stessa si era dimenticata. Guardi, ministro, quindi le posso è una pubblicità postuma. Cruciani ci crede davvero. Io credo che davvero e dalle nuvolette in cui sta Sullo vi darà anche un saluto soddisfatto, perché Sullo, questa era una frase che lui regalava come un insegnamento, ed io infatti l'ho sempre ritenuto un insegnamento, però voi la date tra poco, quindi è inutile che la dica. Sullo, via. Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono. E questo vale anche per Berlusconi, allora. Cosa voleva dire Sullo? Che in politica l'esercizio più sciocco è quello di dire questo qui ha cambiato 100 posizioni, e ne potremmo... È un'antologia la politica italiana di posizioni che cambiano. Ma la politica non è ricostruzione storica, per cui una cosa che tu dici vale nel momento in cui la dici e fa conseguenza allora. La Maiolo ha detto che i Rom, eccetera, si è dimessa oggi, voglio dire. Lei, Berlusconi, se no. Domani mattina, tra un anno, tra due, lei fa una battaglia a favore dei Rom, è quella la notizia. Se voi cacciate la frase che disse alla Zanzara 10 anni prima, non incide nulla. Non so se mi sono spiegato. 30 secondi, sì, sì, no. Ma è il cinismo della politica, che è, in questo caso è un cinismo che è il realismo. La politica è cinica, non c'è dubbio. Anche se sangue, poi quando. Sangue, merda. Ma no, diceva Formica. Mi sembra esagerato. Insomma, per il sangue o per la merda? Grazie al cielo non c'è né l'uno né l'altro. Però, certo, ha una sua freddezza. Ci sono schizzi di fango, però, ora. Altro che. Momento. Noi siamo come nella DDR, questo le voglio chiedere. Lei il film l'ha visto, Le vite degli altri, no? No, non l'ho visto. Neanche lei ha visto. È un film meraviglioso. È un film meraviglioso. Io ho visto due volte un film che ispira. Insomma, in quel film si racconta il sistema spionistico nella Germania orientale. Berlusconi oggi l'ha evocato in questa intervista. Siamo come nella DDR, eccetera. Lei pensa che siamo davvero in una situazione tale per quello che riguarda il Presidente del Consiglio, per quello che riguarda l'inchiesta di Milano? È allucinante che 150 persone stessero a seguire le ragazze a Milano, e sul presupposto che c'era un reato di prostituzione, e per caso arrivano alla casa di Berlusconi. Allora, se Starubbi veniva seguita no, perché porti si rispetto prostituiva, perché è la nipote di Rubai, ecco, non dica perché Starubbi, si prostituiva, porti rispetto. Mi permetto di Starubbi, dire, dice. Mi permetto di dire che a Milano, se si accendesse una luce dietro la finestra di ogni casa d'appuntamento, sarebbe come Napoli il giorno della festa di Piedigrotta, tutta illuminata, perché è una città in cui notoriamente esiste. Allora la procura di Milano improvvisamente vuole bonificare Milano dalla prostituzione. No, ma ha detto, ma la prostituzione non è un reato. Ma qual è il reato? La prostituzione non è un reato. Io vorrei capire da lei se questa operazione assomiglia a un colpo di Stato oppure no. Sì. Come sì? Colpo di Stato. Si avvicina ed è una pagina di una tendenza al colpo di Stato che dal 92 ad oggi è cronaca e storia ormai del nostro 30 paese. Secondi, 30 secondi, torniamo subito. Luciano da Sassari, Mario da Roma, Livio da Bari, mentre mi risulta in arrivo, forse perché i tempi sono quelli che sono, il signor Sgarbi a raccontarci... Qui alla Zanzara. In diretta live. Negli studi di non Roma. Non è una novità Sgarbi alla Zanzara, perché è spessissimo. No, ma qui è negli studi con noi? Pare di sì, dunque attenzione, perché qui ci rimettiamo la pelle questa sera io e Parenzo, per raccontarci la storia del viaggio a Sofia con l'aereo privato di Berlusconi insieme alla signorina Sara Tommasi, che ne spara di tutti i colori, come sappiamo, con le interviste, con questi SMS, preventiva. Eccetera. Questa sera ambulanza impazziremo. Preventiva. 30 secondi, torniamo subito. 30 secondi. Siamo qui, allora Mario da Roma, 800 24 00 24. Buonasera signor Mario, dica pure. Buonasera, Crucianix. Crucianix, no, adesso mi ricorda una cosa che non posso dire. Crucianix è un protagonista di, vabbè, di vicende di... No, cioè? L'altra settimana no, te lo dico dopo, è una cosa hard. No, perché l'altra settimana si è parlato di nomignoli. Si ricorda, lei ha detto che gli piacciono i nomignoli. Io la chiamo così, Crucianix. Va bene, Crucianix, va bene, è bello, questa sorta di Mister X che dalla sua postazione radio ci racconta la politica italiana. Bello, mi piace, insomma. Io sono Mario Manigoldi. Mario Manigoldi, il cognome non è che promette bene. Omen nomen? Signor Mario, però no, comunque Manigoldi, faccia... si ricorda di me quello che definisce. Ma non mi ricordo, Mario, la telefono di decine e centinaia di persone. Vada avanti, vada avanti. Non faccia il gigione, su. Anzi, lo faccia, ma insomma, vada al sodo. Sì, sì, vabbè, non sono un attimo allegro. Che ti amo. No, Manigoldi, dica, Manigoldi, dica. Dico Mario Manigoldi perché sono quello che definisci i politici italiani di Manigoldi, quindi perciò lei oddio, mi ancora con questa cosa dei politici italiani Manigoldi. Sì, io mi sono stancato. Io invece sono stancato, io sono stanco. Ma perché lei chiama sempre? Come fa a passare? Anche lei ha 9 telefonini come quell'altro ascoltatore che cambia continuamente, oppure aspetta il solito mese di... Ma perché mi dice questo? Io chiamo sempre con lo stesso numero. Scusi. Poi se lei non mi vuole più intervenire. No, passa un mese. No, ma io non ho problemi, però se lei mi deve ripetere ancora una volta i politici No, l'ho fatto per farmi riconoscere un attimo e poi va bene, d'accordo, ma l'abbiamo riconosciuta, vada avanti. Allora, io volevo dire, ecco, la parola stanco, ha detto bene stanco, io sono stanco, veramente, guarda, è stanco, perché benissimo. Sono stanco di aver votato un presidente del Consiglio che... Ma lei l'ha votato? Certo che l'ho votato. L'ha votato, beh, adesso si è pentito, va bene, d'accordo. Sì, beh, registrato. Allora, ho votato questo presidente che vuole denunciare il mio Stato. Ah, questa cosa della denuncia. Però bisogna precisare, Berlusconi cosa ha detto? Perché sennò uno dice vuole denunciare lo Stato, oggi l'unità titolava in questo modo. In realtà non è che Berlusconi ha detto voglio denunciare lo Stato. Siccome pensa che uscirà indenne da questa vicenda giudiziaria, ha detto poi mi rivarrò sui magistrati in sede penale, farò causa ai magistrati. Allora, incominciamo eccetera, eccetera. Dato che non c'è la responsabilità dei magistrati, farò causa allo Stato. Questo ha detto, non è che vuole citare lo Stato... Abbia pazienza, certo, è un'altra cosa. Cominciamo no? a fare una cosa primaria, incominciamo a processare lui. Io volevo capire anche dal signor Tondi. Ci sono cose, Tondi, diverse cose in pentola per Berlusconi, da un po' di anni. Volevo cioè capire anche dal signor Rotondi che è lì, no? Che vuole perché capire dal signor Rotondi? Io che sono un elettore del PDL, e ho votato questo signor Berlusconi, perché vabbè, io non devo... perché io non devo capire cosa sta succedendo, cosa è successo in quella casa, perché io devo vedere il mio presidente che non deve farsi processare. Io non capisco il perché. Cioè io devo, sa che lei nel 2008, però nel 2008 se si basa su queste cose ha sbagliato voto, mi sembra che abbia sbagliato casella, ma comunque la sua domanda è molto generica, però la posso riassumere e ripresentare a Rotondi in questo modo. Al di là della questione delle inchieste, di quello che esce dalle intercettazioni, ministro, però insomma c'è una questione che è molto chiara, cioè Berlusconi non può invocare la privacy in queste cose, perché lo stesso Berlusconi ha trasformato la sua vita, ha presentato la sua vita in maniera sempre molto aperta, raccontando quello che faceva, eccetera, eccetera. Ora, c'è un problema che riguarda la sicurezza che ha intorno Berlusconi, cioè qualcuno che controlla le carte d'identità delle persone che entrano dentro casa, il fatto che molta gente, magari lei per parlare con Berlusconi che fa il telefonino diretto di Berlusconi deve passare attraverso qualcun altro, qui ci sono ballerine, gente normale che ha il telefonino di Berlusconi, mondo, del mondo dello spettacolo, lo chiama direttamente al telefono magari più facilmente di quanto non lo faccia lei. Ce l'ha lei il numero di Berlusconi? Ce l'ha. Berlusconi. Ma io sinceramente non è che, il telefono che non è che abbia bisogno di parlargli tanto, perché il dunque, mio compito, anche lui, anche il mio compito, io nella mia vita gli amici ho sempre dato il meno fastidio possibile, quindi lo chiamo raramente. La signora Barbara Guerra l'altro giorno noi ci ha detto: beh, io ho il numero di Berlusconi, ci ho parlato certo. spesso, eccetera. Cioè, le pare una cosa normale? La brasiliana. Ma ognuno nella sua vita il telefono privato lo dà a chi vuole, quindi voglio dire. Ma non è una persona comune qualunque il Presidente del Consiglio? Ma evidente. Non è un Parenzo qualunque Berlusconi, no? Voi considerate che sono bombarole queste persone, non mi risulta. Aveva dato il telefono a delle persone che reputava amiche, ma non mi risulta che siano delinquenti. Delinquenti, intanto voglio dire, hanno trovato anche a casa di una di queste signorine della coca, 12 kg di cocaina. Beh, non mi pare a che... casa della fidanzata di una di quelle che frequentava casa Berlusconi. Ci stanno due o tre passaggi che ci saltiamo, ma rispondendo all'ascoltatore, Berlusconi si faccia processare. Berlusconi, come Andreotti, si è fatto processare in Andreotti 123 procedimenti finiti all'80% con assoluzioni, prescrizioni. E ci sono ancora aperti due processi nei quali sta spendendo una parte notevole dei 187 milioni di euro che lui e le sue società hanno pagato di avvocati. E dopo tutti questi processi finiti grandemente per assoluzioni, qual è la cosa che noi traiamo? È che un povero disgraziato di cittadino che incappi in una quantità di assalti che sono palesemente motivati anche dal ruolo politico che aveva Berlusconi, insomma, se il premier invece di Berlusconi era un poveraccio come me, col cavolo che c'aveva 200 milioni da dare agli avvocati. Però senta, a proposito di Rubi, io voglio dire una cosa: se fosse provato che c'è stato un rapporto sessuale anche minimo tra Berlusconi e Rubi, io francamente lo dico da tempo, non so come possa essere provata una cosa del genere. Questo non è un altro credo. Problema. È un altro problema. Ma Berlusconi ritorno sarebbe alle grave cose... secondo lei, oppure Rubi ritorno Rubi alle dimostra, cose dimostrava ritorno di non essere minorenne. Alle cose che ho detto prima. Mi sì. sembra che tutte queste ragazze non abbiano nulla a che fare con la vita sessuale privata del cittadino Berlusconi, perché mi pare chiaro che erano delle persone che frequentavano queste feste animatrici esclusivamente per ragioni professionali. Alcune persone erano per avere un lavoro a media però siccome, no, siccome perché l'accusa è questa, fanno siccome per mestiere le intrattenitrici, le artiste, le ballerine. Ma cos'è? Si faceva a casa il drive-in praticamente? E perché? Uno che l'ha fatto in televisione c'ha problemi a farla a casa sua. E deve pagarsi il drive-in a casa, Berlusconi. Ma uno che è l'inventore della TV commerciale, di un certo intrattenimento. Sì. E io ricordo che in tanti e tanti sì. anni fa si inneggiava al Marcia Diversa, che nell'intrattenimento televisivo aveva introdotto la Fininvest e quindi Berlusconi. Dunque lui ha riprodotto quel modello ognuno a casa sua. Stesso. Ha riprodotto quel modello ognuno a casa sua. Ognuno è se stesso. Però io voglio facile sapere da lei. Che Rubi dimostrava 18 anni. Cioè... Ma io non l'ho manco vista bene, che ne so. L'ho vista dai giornali come voi. Fondo, quindi può darsi che dimostrasse 25 anni. Io non sono in condizione di fare una perizia. Ma l'età, da quel punto di vista l'età va abbassata sulla prostituzione minorile o no? È giusta quella legge là sui 18 anni? Ma non mi parrebbe comunque il momento di farlo. Non lo correbbe all'ordine del giorno. Vabbè. Bene, abbiamo la pubblicità, torniamo subito per gli ultimi 5 minuti con Ministro Rotondi, 800 24 00 24. Drive-in, ecco. Le serate a casa di Berlusconi secondo il Ministro Rotondi sarebbero come una sorta di drive-in trasportato nella famosa sala del Bunga Bunga. Ma lei a questa sala del Bunga Bunga ci crede o non ci crede? Ma solo che, una, ma non diciamo una barzelletta eccetera. A me sembra, cioè, non è una del pratica tutto sessuale. Evidente, del tutto evidente che il Presidente Berlusconi non può che somigliare nelle sue occasioni diciamo così mondane alla persona che tutti noi abbiamo conosciuto, trasparente, lineare, elegante anche. Lui ci tiene al concetto del decoro della sua casa, mica se la fa profanare da cose che ognuno esce e racconta. Beh, insomma, non è mi che sembra che, chiaro che i racconti vanno tutti riscontrati, verificati, e ognuno di noi è libero di credere o no a quello che in fin dei conti viene raccontato in intercettazioni estorte a persone che per mestiere fanno le artiste e quindi qualche recitata al telefono se la possono illustrissimo, illustrissimo signor ministro, dico con grande rispetto, ma le ricordo che per la casa lì di Arcole, di Palazzo Grazioli, c'è passata dalla signora D'Addario fino a Ruby Rubacuori. Ora, profanata, io ho rispetto per la signora D'Addario e anche del mestiere che ha fatto in passato, però voglio dire che non c'è stata profanazione della casa, io, come lo dice lei. Sinceramente, io ho... Lei la signora D'Addario a casa sua l'avrebbe invitata? Io, se devo dire, la D'Addario non manco, mi ricordo manco esattamente in tutto la questo Terry giro De di Nicolò. Nomi chi è. Però chi è? Voglio dire, è? Ma un po' di telefoni andavano sequestrati a queste ragazze prima di entrare dentro. Premesso che non troverei normale un padrone di casa che sequestra i telefoni. Vabbè, insomma, per a chi entra o chiede la carta d'identità. Ma non è solo padrone di casa, è il presidente del consiglio. Ma è diversa, sì, ma anche funzione, se si va a trovare la Merkel a casa sua, vuol dire che la si conosce. E dubito che la Merkel dica fuori documenti. Beh, sì, non è che conoscesse tutte le persone che arrivano a casa sua. La Merkel non è che fa entrare 20 ragazzi a botta o ragazzi a botta ogni sera. Se la Merkel facesse entrare 20 ragazzi a botta ogni sera, io forse il Der Spiegel o il Frankfurt Allgemeine qualche problema lo porrebbe. Trovo sinceramente che il comportamento del presidente Berlusconi sia stato sempre nel segno della correttezza e anche della eleganza. Come la Merkel, dice, ha comportamenti in stile Merkel. C'entra ognuno e se stesso. Ah, ecco. E a lei a chi lo paragonerebbe come ecco, leader, sì, esatto, diciamo, ma di Berlusconi adesso, non è stile paragonabile che a se stesso, perché è una figura eccezionale, sì, che in senso letterale, cioè sì, è una eccezione rispetto a tutti i politici che abbiamo visto prima, un'anomalia, che vedremo dopo, un'anomalia, non un'anomalia, anche un'eccezione, anche perché un'anomalia. È un uomo che ha inventato un modo di abitare diverso, perché Milano 2 viene studiata in tutte le riviste di architettura in tutto il mondo. Ha inventato un modo di ha inventato una TV commerciale che ha dato il pluralismo, sì, televisivo. Poi, in Italia ha inventato merito un partito in 3 settimane e l'ha portato al governo, sì, quarto, ha realizzato la democrazia diretta, il bipolarismo vero, perché quello lì finto che avevano fatto i comunisti consisteva nel far cacciare la DC dal governo, dalle procure, e poi correre alle elezioni solo loro con Occhetto, e Berlusconi paga naturalmente di aver fatto saltare questo schema. Quindi Berlusconi basta, potrei elencare contentatevi dei primi quattro. È una figura eccezionale nel senso letterale del termine, è una eccezione. Ma dopo e Berlusconi, tutti noi siamo onorati di aver collaborato con lui, perché io che sono arrivato al governo in quest'ultimo giro ho avuto proprio il senso di stare accanto a una persona che è già nella storia, perché il ventennio berlusconiano, sì, dal 93 al 2013 sono 20 anni, sicuramente occuperà una parte importante della storia contemporanea. Senta, Rodondi, ma al su, di là delle opinioni nome, che si hanno sul nome su nuovo Berlusconi, del PDL, lei darebbe qualche consiglio a Berlusconi? Pare come che no, sia alla ricerca di un nuovo nome. Io gli darei un consiglio: Democrazia Cristiana con lo scudo crociato, Berlusconi presidente. Direttamente lo scudo crociato. Certo, il presidente Berlusconi. Lei regalerebbe lo scudo crociato non è mio, all'uomo del drive-in. Non è mio, ma voglio dire, Berlusconi entra in politica prendendo il posto della Democrazia Cristiana, perché prima di lui a prendere voti contro i comunisti c'era la DC. No. Dunque, se Berlusconi si presentasse col simbolo alla della fine DC del giro, che non sarà domani né dopodomani, sarà non quando lui grande, decide. Non ha grande appeal il nome della DC. Io trovo che sarebbe bellissimo che Berlusconi rifondasse lui un partito di ispirazione cristiana dopo che i suoi governi sono stati quelli più leali per, rispetto alle ragioni, alle libertà e ai diritti della Chiesa. È clamoroso, cioè il simbolo della DC per arrivare a quanto potrebbe prendere un simbolo della DC? Io ho un sondaggio di Inopera, che è una primaria società di sondaggio che opera prevalentemente per anche lei, attività cioè commerciali. Sì. Abbiamo un sondaggio secondo cui la lista della Democrazia Cristiana con lo scudo crociato, Berlusconi presidente, otterrebbe il 36% dei voti. 6 punti più del massimo che i sondaggi danno oggi al PDL. Berlusconi lo farebbe subito se fosse così, ministro Rodondi, non ci turlupini. Ci sono difficoltà giuridiche che io sono in grado di gestire. Cioè, ci quelle sono difficoltà sull'utilizzazione del simbolo. Sull'utilizzazione del simbolo. Che io sono in grado di gestire, cosa vuol dire? Che lei perché, c'ha la gamba. Perché il simbolo ed il nome della Democrazia Cristiana sono stati oggetto di una sentenza della Cassazione. Vabbè, adesso non ci addentriamo, però. Senza entrare nel merito, insomma, c'è una strada per cui quello che dico si può fare. Ma aggiungo anche che se Berlusconi facesse questo, sono sicuro che Casini, Buttiglione, forse persino Follini riconsidererebbero la loro posizione. Ma mi sembra un sogno del ministro Adonni, ma che non attiene la vita alla politica è fatta un di sogno, sogni un incubo, quando un incubo, si vogliono seconda. Cambiare le cose. Forse un incubo, se tu, un stai, incubo, se tu stai sulla notizia del giorno, su quello che ti raccontano i TG, su quello che ti passa il convento, non cambi mai le cose. Senta ministro, un'ultima cosa, la manifestazione che fanno le donne, come la giudica? Ah, qui c'è libertà di manifestazione, non la fanno le donne, le fa la direttrice dell'unità con quelli che si leggono il suo giornale, quindi una penso che si possa Berlusconi, fare anche in una camerata di convento, perché non mi pare un giornale di massa, come c'è dire. Anche la Perina, la direttrice del Secolo, altro giornale di massa, l'uno e l'altro finanziato con i soldi dei cittadini. Anche lei però non è che fa partiti proprio di massa, Rotondi, adesso io sono l'unico che da un'elezione all'altra dallo 0-5, essendo io alto, smentisco questa illazione. Io ho fondato nel 2006 la Nuova Democrazia Cristiana e Berlusconi stesso ha detto che sono un cofondatore del PDL nel 2008. Sono l'unico nella storia che in due anni passa dallo 0,8 al 35%. Allo 0,8. Dallo 0,8 al 35%. Grazie ministro, grazie, grazie di essere stato con noi. 27 grazie minuti, 800 24 00 24. Andiamo a sentire la 7, titoli. Contro di me c'è un complotto da Germania comunista e questo è un clima da golpe morale, e dice Berlusconi al Foglio. Sono un peccatore, certo. La privacy del Premier è stata violata, sostiene il PDL, che intende ricorrere a Strasburgo. Valutiamo un ricorso alla Corte dei diritti umani contro i PM, dice il ministro degli esteri, Frattini. Da Berlusconi parole eversive e la replica di Bersani, segretario del PD, che chiede all'opposizione adesso di serrare le fila. In studio sentiremo la reazione del segretario dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. Nuovo giallo al Palazzo di Giustizia di Milano, un'altra effrazione negli uffici del giudice per le indagini preliminari, la terza in pochi mesi, qualche tempo fa sparì anche un computer. Sara Tommasi da Dubai, dove si trova in vacanza, continua a parlare, ma l'inchiesta di Napoli segna un flop e appare destinata a arenarsi. La procura di Milano del resto ha già preso le distanze. In Egitto ore storiche, Mubarak verso l'addio, in serata è previsto un discorso alla nazione, ma il presidente potrebbe già aver lasciato il Cairo, secondo le voci. Il potere militare, che dicono alla folla, è in arrivo, una bella notizia, ma qualcuno parla di golpe. Eccoci qui, c'eravamo un po' attardati per salutare il ministro Rotondi, che lasciava gli studi della Zanzara qui. Ministro, attuazione del programma, adesso perché non c'è, comincia a dire che non è ministro. No, ma glielo ho detto capire, no, ma certo che è ministro. Ma... Luciano da Sassari, buonasera, 800 24 00 24, prego. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Buonasera, dottor Parenzo, buonasera. Va bene, buonasera. Non ci attacchiamo. Dopo le dichiarazioni del ministro Rotondi mi stavo chiedendo se stavo ascoltando il ministro della Repubblica Italiana o il ministro del pianeta Marte. Veramente non pensavo che il saturnismo fosse una patologia contagiosa. Perché mi pare che ci troviamo davanti a un conclamato caso di saturnismo, sa, il deposito del piombo nei cristalli, prima attanaglia i genitali, poi sale verticalmente. Terribile immagine. Sì, sì, Nerone inizialmente non era un cattivo governatore dell'impero romano, poi il saturnismo, col deposito del piombo, sai, i bacanali, le orge, le ragazze legate ai cocchi, insomma. Vabbè, non ci addentriamo, però andiamo al sodo. Io sono disgustato, dottor Cruciani. Vabbè, molte persone sono disgustate. Sto vivendo in un paese, mi vergogno perché viaggio spesso, anche in paesi, recentemente ero in Tunisia, dove siamo riusciti a rientrare fortunatamente illesi, eravamo ad Hammamet con la mia compagna. Dunque? E in Portogallo, in Andalusia. Che succede in Portogallo, in Andalusia, vorrei essere appena più ricco per viaggiare più spesso. perché? Proprio perché tutti lo vorremmo fare, sentire, cioè, no? Per non sentire più veramente queste favole quotidiane. Io vi ascolto quotidianamente e mi trovo spesso, molto spesso, d'accordo con Davide Parenzo, perché va bene, la trovo una, con lei non dico quotidianamente un po' di meno, ma... con me un po' di meno, no, male, no, male, no, male, lei è più dialettica, magari prende più prende delle posizioni diverse, insomma. Parenzo dice proprio quello che pensa. Vabbè, Luciano, però io devo mandare la pubblicità. Lei, se non va al sodo e non mi dice di che cosa vuole parlare, facciamo notte. Non credo assolutamente nella buona fede del Premier. Su la che cosa? Sulla vicenda di Mubarak? Sì, certo. Ma quello credo che sia molto difficile. Le crisi internazionali, affidare alla Minetti questa ragazza, che poi finisce nell'arco di 24 ore a casa di una prostituta brasiliana, sì, dove ruba altre cose, dove è sempre nei guai. Ma io credo che il nostro paese meriti altro, dottor Cruciani. Va bene, qui. Luciano, grazie. Pubblicità. Eccoci, 2014, 800 24 00 24. Davide da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera anche dica. Ma secondo me ci sono tre punti fondamentali della vicenda che coinvolge il presidente Berlusconi, che andrebbero sostanzialmente ben identificati, no? Perché quando ci si appella alla privacy, io dico, se uno commette un reato all'interno di casa propria, la privacy sostanzialmente dovrebbe essere messa sicuramente secondo piano, altrimenti tutti gli spacciatori spaccerebbero in casa la droga e si appellerebbero alla privacy, perché non dovrebbe essere violata sostanzialmente. Ma la violazione della privacy non è fondata sul fatto che le cose avvengono dentro casa sua, cioè la violazione della privacy è anche sulla pubblicazione delle intercettazioni, eccetera, eccetera. Non è sul fatto che sia. Ho capito, però, se sostanzialmente uno ha commesso un reato in casa propria, o si difende sul reato, quindi in merito, ma non certo va a prendere il fatto che le intercettazioni di un suo reato sono superiori, guardi, quella, io non so quale sarà il ricorso superiore al reato stesso, perché no, guardi, non so quale sarà il ricorso alla Corte Europea, francamente non faccio il giurista, non faccio l'avvocato, non lo so, mi sembra una cosa, per carità, legittima, ma piuttosto temeraria, ecco, insomma, che comunque non produce effetti se non quello di acuire lo scontro, per carità, e siamo in una situazione di Alaguer con Malaguer, questo, certo, è il punto. Probabilmente si arriverà, sì, al conflitto di competenza, alla Cassazione, forse anche alla Corte Costituzionale. Io mi auguro, cioè, siamo in questa situazione, Alaguer con Malaguer. Sì, ma si rifletta sul fatto che se uno commette un reato in casa propria, commette un reato, e questa è la cosa principale. Ma sì, d'accordo, che poi su il reato che commetta, David, possa essere pubblicato sui giornali, questa è una questione secondaria, molto secondaria rispetto al reato. Dunque, quindi mi concentrerei sul reato. Poi c'è un altro punto, che se uno vuole farti i fatti privati, poi allora non assuma le persone che frequenta nei cabaret presso la Respubblica. Cioè, lei sta parlando del caso Minetti e di altri casi, sì. Non se le faccia trovare all'interno del partito o in Parlamento, eccetera, eccetera, perché prendi anche questo, diventano cose private, ma stai pubblica se poi le pagano. Cioè, io dico, la questione della Minetti, il signor Berlusconi che diceva questa signora sa le lingue, è bravissima, eccetera, c'è un'azienda, assume 5.000 persone, assuma 5.001, non la faccia assumere a noi della regione Lombarda, voglio dire. Ho capito, questo, grazie. Salvatore da Pavia, buonasera. Sì, pronto, Salvatore? Buonasera. Dica pure. Ma allora, niente, una cosa che volevo dire, poi mi pare l'ha detta lei o Parenzo, non ho riconosciuto la voce in quel momento, e cioè, io voglio anche dare, voglio dire, va bene, Berlusconi, che ha dimostrato in questi 17 anni di essere una persona integerrima, che non dice mai bugie, sicuramente era in buona fede. E quindi, ma su che cosa? Su lui Mubarak, pensava che Ruby fosse veramente, sì, la nipote di Mubarak. Però, voglio dire, un capo di governo che sa che c'è la nipote di Mubarak in questura, se proprio ritiene di doverla liberare, perché non è che la stanno torturando, allora chiama l'ambasciata e fa arrivare un delegato dell'ambasciata, e non manda una consigliera regionale esperta in lingua. Quindi io esperta onestamente in, scusi? Esperta in? Esperta in lingue straniere, come lui ha dichiarato lì all'Infedele, no? Sì, no, in lingua lei aveva detto. Sì. Vabbè, ho sbagliato, sì, singolare. Intenzionalmente ha sbagliato lei. No? Ma lei è un giudice comunista, come fa a dire intenzionalmente, scusi? No, ma era una battuta, non si scaldi. Comunque, sì, è la stessa obiezione che abbiamo fatto a Paniz prima, cioè se proprio Berlusconi, insomma, era convinto che Ruby fosse una una, no? Una nipote, un parente di Mubarak. Perché ha mandato la Magari può anche fare la telefonata, dopodiché... Non ha avvertito i suoi i consoli, non ha, ma non ha detto agli stessi poliziotti avviate le procedure, verrà un console o un funzionario, cioè, una cosa normale, manda la Minetti alla brasiliana, una cosa pazzesca. 20 e 18, traffico. Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24. Luigi ci chiama da Bologna, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Dica. Volevo intervenire sul viaggio di Tremonti. Sì, viaggio di Tremonti in treno, viaggio di Tremonti in treno, in autobus, capito... anche sulla Salerno-Reggio Calabria insieme a Bonanni. Sì, viaggio per capire i trasporti del sud, qualcuno l'ha paragonato ai viaggi che si facevano in Unione Sovietica. Ma non so, io non ho capito il senso, nel senso che il fatto che da Milano a Roma ci vanno 3 ore, basta leggere gli orari dei treni sul sito. Vabbè, magari provare per credere, non nelle 3 ore naturalmente, ma i servizi sul treno, il wifi, queste robe qua, non le 3 ore. Beh no, però io sto alle dichiarazioni di Tremonti, ho detto da Milano a Roma ci vanno 3 ore, da Roma a Reggio Calabria 7, 8, non so, quello lì basta leggere gli orari. Poi il fatto che sul treno ci sono i moscerini spiaccicati al nord invece che al sud, no, perché al sud vanno più lenti per forza, al sud non c'è ancora alta velocità, quindi piuttosto che i cantieri sulla Salerno-Reggio Calabria, anche lì lo sappiamo tutti, anzi non è un bel segno perché sono lì da tanto tempo, e il fatto che lo dica si muove qualcosa mi sembra un po' una stupidaggine, perché anzi è una cosa negativa il fatto che ci sono ancora dei cantieri su quell'autostrada che vuol dire dovevano concludersi molti anni fa, quindi non so, riempito come dire, con delle dichiarazioni di una banalità totale, non mi ha dato nessuna informazione significativa, quindi non ho ben capito il senso di questo viaggio. Il viaggio anche... di Tremonti in treno, in pullman, insieme a Bonanni, addirittura sulla Salerno-Reggio Calabria. Ma insomma, sì, io però... dico, al di là delle ironie, quando un ministro va a verificare sul territorio quello che succede, va sempre bene. Sì. Insomma, adesso senza. Non dobbiamo. Sì, però questo falso pauperismo di andare in seconda classe. Vabbè, no, non è falso pauperismo, è capire se la seconda classe. Sì, importante, vabbè, che dopo, dai, queste cose cambi qualcosa. No? Sì, invece, se c'è da cambiare qualcosa. Invece non lo viaggino so, in treno, viaggetto in treno, poi dai, vedremo, vedremo. Marco da Milano. Buonasera, Marco. Buonasera. Io chiedo agli ottimi Parenzo e Cruciani un atto di onestà intellettuale. Se siamo tutti uguali, politici sì. e non, chiedo formalmente un secondo simbolico di sirena d'ambulanza per il ministro Rotondi. A proposito di chi? Su quale proposito di tutte le affermazioni che ha fatto, chiunque altro le avesse fatte, penso che sarebbe stato sanzionato con la sirena. Poi una brevissima seconda cosa, consiglio al ministro Rotondi di ascoltare una canzone rispetto al sex appeal del premier di circa 30 anni fa, che nella prima strofa recitava: se io fossi un falegname e tu una signora, credi davvero che mi ameresti ancora? Vi ascolto in radio, ma pensate al secondo simbolico. Grazie. Va bene, grazie. Guardi, il problema è molto semplice. Rotondi spesso usa anche l'arma dell'ironia, dunque... sì. È evidente che su Berlusconi magari qualche ambulanza, a proposito di Mubarak, o sulle signorine là del drive-in, le animatrici, forse sì, quella forse delle animatrici forse ci volevamo, però siccome lui la dice in maniera convinta allora non abbiamo mandato l'ambulanza, mica perché ci facciamo spaventare, sì, da Rotondi, per carità, ma non è... neanche io non credo neanche alla sua versione dei fatti, però, come però dire, il modo con cui lo racconta ci ha un po' castrato, sì, sull'idea di mandare, sì, l'ambulanza, sì. Viva l'Inghilterra, viva l'Inghilterra. Terra, voglio sentire questa canzone, poi vi spiego perché. Viva l'Inghilterra. Prego, sali, sali pure. Non un mastico l'inglese. I don't speak so soon. Allora, lo spot di Rutelli, ricordate, Visit Italy, no? Quanta roba porca loca. La Camilla, yes, my car, qui mi si sbraca. Ride pure se non ha capito niente. Le lenticchie sul nasino un po' all'insù, i capelli un po' arruffati, senza trucco, senza inganno, sacco a pelo, scatolette, gira il mondo tutto l'anno, e poi c'ha una bronzatura. Please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world. Ora Rutelli ci ha spiegato ieri come è nato questo spot che ha fatto poi il giro d'Italia, è stato molto dileggiato sul web, non solo sul web, ce l'ha spiegato in questo modo, non so se ci credete o no, comunque questa è la versione di di Rutelli. Lo parlo, diciamo, lo parlo in maniera commerciale, commercial English. Adesso è facile così, con una frase così spezzata è facilissimo. No, non rompiamo le palle al pubblico. Come no? Il pubblico vuole sapere. Mr. Rutelli, what do you think about the future of Mr. Berlusconi, the future? It will be overwhelmingly hard. Io ho fatto l'annuncio in italiano e poi la persona che seguiva quel sito mi ha detto perché non prova a farlo in inglese. Ho detto, ma in inglese? Ma sì, facciamo una prova. E io in diretta improvvisato assolutamente in 25 secondi, perché 25 secondi ho pronunciato una cosa in un inglese maccheronico in un inglese abbastanza corretto, l'inglese era corretto, la pronuncia era una pronuncia abbastanza, vogliamo risentirlo, eh? abbastanza mettiamo un po' in mezzo abbastanza italiana. La scusa le do un bacio. Vabbè, insomma, non ha mollato su questo. L'inglese non è poi tanto male. E poi mi hanno preso un po' in castagna perché abbiamo fatto l'abbiamo lasciato sul sito per qualche. L'ho fatto così all'impronta. L'abbiamo lasciato sul sito, non so, per 24 ore. A quel punto è diventato preda di tutti. Abbiamo Giuseppe da Torino, 800 24 00 24, mentre ci ha chiamato la signora Muscardini. Cristiana Muscardini, eurodeputata del Futuro e Libertà, perché vorrebbe intervenire sulla vicenda di Strasburgo, del ricorso a Strasburgo. Non vuole che andiamo a Strasburgo la settimana prossima? No, speriamo di no, ma insomma credo che abbia qualcosa da dire. C'è un ricorso impossibile, quello di Berlusconi. Ma come Berlusconi, vediamo. Cosa fa? Chiama come Berlusconi in diretta la radio. Chiama come Berlusconi la radio. A Muscardini come grandioso. Il telefono della Zanzara. Bravissimo. Grande a Muscardini. Disposizione il telefono della Zanzara. Solo per la Muscardini, però si chiama Berlusconi, non la facciamo passare. Non esageriamo. No. Qui c'è un telefono a disposizione, come fate in onda col telefono rosso? 800 24 24 traffico. No, una linea dedicata, una linea dedicata per i VIP. Diamo il numero allora, 3? No, poi lo diamo. Intanto Giuseppe da Torino. Idea geniale questa tua. Giuseppe, dica. Beh, è geniale. Buonasera, anch'io volevo intervenire su quello che ha detto Rotondi, no? Cioè, che ha detto veramente delle cose assurde. Ma chi ha detto delle cose assurde? Giuseppe, scusi. Ma scusa, come si fa a non credere, a credere che Berlusconi, quelle ragazze sono andate lì per intrattenerlo? Ma dai, come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, come delle, che ha detto, come delle animatrici delle feste, animatrici alle feste, sì. Ma come posso, scusa, cioè, le intercettazioni, quelle parlano tra di loro solo per spremerlo. Cioè, beh, ma le intercettazioni, questo non è in contraddizione col fatto di essere un'animatrice, il fatto di spremere Berlusconi. Ma l'animatrice di che cosa, qual è la loro specialità? Di cosa possono animare diverse. Possono animare diverse parti del corpo, anche il cervello animare, così, no? Sì, così siamo d'accordo. Poi comunque vi rimprovero, perché comunque voi cioè, d'accordo che la trasmissione sta diventando leggera, però alcune cose non dovete permettere. Leggera? Ma leggera, io gli ho detto che mi sembra una sciocchezza questa dell'animazione. Abbia pazienza, Giuseppe, io non ne posso più di sentire queste critiche sulla seconda. Siete poco convinti. Ma cosa dobbiamo dire, Giuseppe? Tirargli un telefonino in testa, una statuetta, che prendere il computer qua e tirargli la testa rotonda. Come ha detto l'ascolto di prima, l'ambulanza non l'avete messa neanche una volta. Ci rimproverano, hanno messo l'ambulanza per adesso ripartirà, non le ambulanze, ripartiranno però. No, ma per carità, voglio dire, lei può anche avere ragione, ma eravamo così colpiti da questa cosa, non abbiamo pensato all'ambulanza, ma mandiamola adesso in ritardo, no, perché non conta poi. No, non conta. Quando è lì. Va bene, comunque le critiche ce le pigliamo, Giuseppe, non abbiamo mandato l'ambulanza per Rotondi su questa cosa delle animatrici, ed effettivamente forse un'ambulanzina ci voleva. Un'ambulanza ci stava, magari una lettiga magari, no? Beh no, un'ambulanza. No, ma anche solo una lettiga con due... Però la lettiga sta dentro l'ambulanza. Anche a piedi la lettiga, hai visto la lettiga che arriva a piedi? Ma cosa c'entra? Una piccola macchina, sono mica solo le ambulanze, ci sono anche le macchinine, quelle di pronto intervento. Con le lettighe, sempre grandioso, l'ambulanza, anche le macchinine, quelle più piccole. Pubblicità. Se io fossi un falegname e tu una signora, tu credi davvero che mi vorresti ancora? Avresti negli occhi la stessa dolcezza, oppure sarebbe soltanto tristezza? Eccoci qui di nuovo con questa canzone dei Dick Dick che ci è stata suggerita da un nostro ascoltatore. 800 24 00 24. Io mi avete dato mille spiegazioni, ancora non sono riuscito a capire perché la proposta. Quale sarebbe questa metafora del falegname? La metafora del falegname, se io fossi un falegname, allora? Forse il collegamento prima che faceva non so chi, un qualcuno che abbiamo mandato in onda, eccetera. Però al telefono della Zanzara, al telefono, ma perché adesso Zanzara chiede a genere di politici si permettono, no, dobbiamo telefono mettere un telefono speciale, sì, a questo punto. O beh, politici o qualcun altro, un telefono speciale, un collegamento come avete fatto voi in onda, l'ho già detto, un telefono rosso. Ci ha chiamato una nostra cara amica dal Parlamento Europeo, la signora Cristiana Muscardini di Futura Libertà. Buonasera. Buonasera a voi, scusate, allora, il disturbo, ma... No, per carità, faccia noi siamo... quello che vuole, prende telefono, passatevi, No, scusa. Però comunque, come Berlusconi, come Berlusconi, Muscardini, come io Berlusconi, una volta che telefono, no, ma stiamo scherzando naturalmente. Senta, ma lei ci vuole chiamare per questa cosa del ricorso a Strasburgo, no? Sì, no, ecco, io dico, io ho chiamato perché sono un po' stupefatta dalla dichiarazione del ministro degli esteri, sì, italiano rispetto alla, a Frattini, rispetto a rivolgersi alla corte di Strasburgo, cioè alla corte dei diritti dell'uomo. Però lo fece anche Craxi, lo sì fece anche Craxi. Allora, cioè, bisognerebbe chiarire questo. Prima di tutto, per i comuni mortali in genere vi è la possibilità di aderire alla corte di Strasburgo solo che dopo siano stati esperiti i gradi di processo in Italia, nel paese, nel paese nel quale si risiede. Nel caso dell'Italia in genere i gradi sono tre. Dunque lei dice non è il caso di Berlusconi sicuramente. Che non è non è un comune mortale, questo lo sappiamo. Vabbè. È un comune immortale. Mentre come invece... immortale? Scusi, lei crede all'immortalità di Berlusconi? Crede ai suoi crede medici, lui, io credo che ognuno quando crede qualche cosa la può fare anche diventare vera, magari. Vabbè, insomma, secondo lei non è possibile tecnicamente fare questo ricorso? C'è tecnicamente un'altra ipotesi, e che cioè è esperito il primo grado di giudizio nel quale una persona è stata condannata, e qualora questa persona ritenga che anche i futuri gradi non gli daranno ragione, cioè una legittima suspicione rispetto al proseguimento, potrebbe anticipare il ricorso alla Corte. Chiaramente il ricorso alla Corte parte dal fatto che ci sia una violazione della Carta dei diritti. Nel caso specifico, se la violazione si intende la violazione della privacy, a me sembra difficile immaginare di poter sostenere che è stata violata la privacy del Presidente, quando semmai può essere stata violata la privacy delle persone che si recavano dal Presidente. Di conseguenza non è colpa ma ci chiama per dirci questo. Io immaginavo ci svelasse il quarto segreto di Fatima. No, quello ci ha chiamato per la telefonata. Ci ha chiamato, io ho allora detto, la prossima telefonata è il quarto segreto di Fatima. Intanto però siamo scaduti, c'è una cosa che sulla base di quello che sappiamo è una stupidaggine rivolgersi alla, cioè il ministro Frattini non conosce le regole della Corte di Strasburgo. Questa è la sintesi. Muscardini due punti, Frattini non conosce, poi magari è stato preso, come dire, dall'emozione del momento, doveva dichiarare qualcosa e ha detto una cosa tanto per dirla. Succede a volte ai politici Frattini dice una cosa tanto per dirla, questo è interessante. Ma lei dice una cosa, Muscardini due punti, Frattini non conosce le regole della Corte di Strasburgo. A mio avviso no, e a mio avviso è oppure se le dimenticate, perché essendo stato lui commissario europeo, certo, non dimentichiamolo che Frattini è stato commissario europeo. E questa è un aggravante. Sarebbe non è che gli fa un favore dicendo, ricordando questo. Senta, lei sui Rom, come la pensa, come la signora Maiolo, dato che siamo a Futura Libertà, sulla vicenda dei Rom? Io credo che tutti i cittadini, tutte le persone, tutti gli esseri umani abbiano pari dignità e debbano essere aiutati ad integrarsi, che le culture vadano rispettate, che è altrettanto vero che chi viene nei nostri paesi deve sapersi adattare alle nostre culture. Benissimo, ma le nostre generale culture devono dare i servizi. Non è immaginabile nel terzo millennio che vi siano migliaia di persone che vivano in baracche abbandonate, abusive. Ma che sono integrabili i Rom, signora Muscardini? I Rom sono integrabili? Secondo me molti sì, molti no. Molti sì, molti no, 50-50, scusi. Ma il 50-50 io non lo posso dire, io so che ci sono delle comunità rom che vivono da anni in Italia e sono integrati benissimo. Ci io credo, delle con quelli che non si integrano che dobbiamo fare. Arrivate anche dopo l'unione della Romania all'Europa, per cui con la facilitazione dell'apertura delle frontiere, che si sono trovati in condizioni in cui diventa difficile integrarsi, perché se si vive in baracche dove ci si scalda con dei bracieri è difficile poter integrare. Però al di là di questo, alcuni proprio non si vogliono integrare, secondo lei che cosa bisogna fare con questi? Guardi, con quelli che non si vogliono integrare, bisogna espellerli quando non sono integrati. Comunque rispettare le leggi dello Stato nel quale soggiornano, seppur provvisoriamente. Ma sono come è più facile educare un cane? No. Ma io credo che questa dichiarazione sinceramente sia come dire scappata di bocca alla Maiolo, perché per quello che ho potuto conoscerla io nel passato è sempre stata una persona molto attenta al rispetto dei diritti umani e delle persone, per cui mi stupisco effettivamente di questa dichiarazione che è completamente in antitesi a quello che Futura Libertà dice da sempre. Però le ricordo, signora Muscardini, che nel 2007 Fini, che è leader di Futura Libertà, sosteneva che i rom non sono integrabili, non si vogliono integrare. Nel 2007 poi avrà cambiato idea, per carità. No, ma non è questo il problema. Non è che siccome una persona non si vuole integrare, tu, come dire, la tratti come un animale. È un altro discorso, però diceva che non si possono integrare. Gli animali andrebbero anche loro trattati meglio, essendo io nota animalista. Ma chiusa questa parentesi, i rom che non si vogliono integrare hanno il diritto di non integrarsi, ma adeguandosi alle normative, alle leggi dei paesi nei quali soggiornano provvisoriamente. Comunque lei sostiene sulla cosa più importante, lei sostiene che Frattini non conosce le regole della Corte di Giustizia Europea. La ringrazio, buona serata. Ci vediamo la settimana prossima. Au revoir, madame. Au revoir. Grazie. Pietro da Milano, buonasera. Dica pure. 800-24-24. Mezzo al traffico milanese. E vabbè, noi siamo a Roma invece. Bravo. Dopo stasera è così. Niente, mi dispiace calcare la mano, però veramente Rotondi è inascoltabile, come parecchi di quella coalizione. Vabbè, lei è un pregiudizio. Però. Mi dispiace sentir dire che queste ragazze erano delle animatrici e che sono state pagate, anche perché comunque se io prendo un animatore a casa per una festa, poi dovrei pagarlo in maniera, diciamo, non in nero, con delle buste, come è stato fatto dal nostro presidente del Consiglio. Tra l'altro. O magari una piccola ritenuta d'acconto, una fatturina, ecco. E vabbè, poi anche contro No, voglio dire, cioè, adesso questa cosa non l'ha messa in mezzo nessuno, cioè, i pagamenti in nero, cioè uno può anche considerarli semplicemente dei regali. Il momento non ne hanno ancora parlato. Io posso anche regalare 5.000 euro a una persona, puoi fare quello che vuoi, non costituisce reato. C'è una legge che è stata fatta proprio per l'antiriciclaggio, dove pagamenti al di sopra di 3.500 euro devono essere fatti o tramite bonifico bancario o con assegno. Vabbè, adesso non voglio entrare nel dettaglio. 10.000 euro in contanti, 10.000 euro in contanti, 11.000 euro in contanti sono, non so cosa sono. Bah, non so. Comunque, vabbè, al di là di questo, Pietro, nero a casa mia, ecco, poi non so, sarebbe persone, io credo che i giudici non si sarebbero fatti scappare un'occasione. No, un'occasione certo. Probabilmente ci torneranno sopra, adesso ci sono cose ben più importanti. Non diamo suggerimenti alle procure, che già si muovono con la dovuta di solerzia. Assolutamente. Poi diciamo che anche per quanto riguarda il fatto che lui è un benefattore e aiuta delle persone questo ha detto in difficoltà, anche mi spiace che la signora 82 anni, sono curioso, a proposito, di donne, di ragazze, giovani, in alcuni casi minorenni. Non ho visto un ragazzo in difficoltà che ha preso i soldi da Berlusconi in questa situazione. Sì, vabbè, questo non lo sappiamo, magari non ce lo dice, invece ha aiutato un sacco non di ragazzi. Ma non è venuto fuori neanche da un'intervista. Sì, ma per me è sbagliato lo stesso fatto di aiutare le persone come fa Berlusconi, cioè nel senso di fare assegni o aiutare qualcuno perché lo chiede, è una stortura, non funziona così. Cioè, fa politica, esatto, non funziona così. Però sono molto curioso, e la ringrazio Pietro, sono molto curioso di seguire la storia di questo 82enne. Questa è una bellissima che idea. A Rotondi ha dato un bigliettino dicendo: ma scusi, ma Berlusconi aiuta tante persone, perché non aiuta pure me? E Rotondi vuole portare questo caso all'attenzione di Silvio. Questa sua idea di seguire questo caso è geniale, se lo lasci dire da uno disinteressato voglio a continuare a collaborare. Voglio è geniale. Voglio seguire la vicenda di questa 82enne. Idea pazzesca. 82enne, la vogliamo sentire, eccetera, e vogliamo capire alla fine che tipo di assegno è stato firmato. Se viene firmato questo. Ma sì, verrà firmato, perché gliela presenta Rotondi, figuriamoci se Berlusconi non molla 2-3 mila euro. Sono voti, quelli poi. Beh sì, sono voti, certo. Giovanni da Treviso, buonasera, 800-24-0024, questa è sempre la Zanzara, fino alle 21. Giovanni, dica, tanto, che sta succedendo in Egitto intanto? In Egitto che succede? Si è dimesso Mubarak, non si è dimesso? No, ma avrebbero interrotto sicuramente con una breaking news. Dunque, no, ancora non si è dimesso. Stasera c'è il discorso di Mubarak alla nazione però, eh? In cui potrebbe dimettersi, no? Va bene, comunque, Giovanni, dica. Sì, volevo dire, a proposito di quello che diceva il ministro Rotondi, no? Sì. Lui le ha chiamate animatrici, no? Animatrici. Però chi è uomo di mondo, come sicuramente siete voi e soprattutto Parenzo, credo, sa che se si va nei locali, soprattutto in certi tipi di locali, molto spesso non si entra se non si è accompagnati da, da una ragazza. E ci sono ragazze, giovani, mi è successo anche a me, che selezionano, si chiamano accompagnatrici, diciamo, fanno immagine, ragazze immagine. Certo. Sì, ecco, ma che vuol dire questo, Giovanni? Scusi, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un'altra cosa. Cioè, io voglio dire, è evidente che io non le bollo, per esempio, come prostitute. Non l'ho mai fatto e non lo farò mai, perché non c'è un patentino, perché non c'è. Perché ci sono persone che fanno magari le ballerine o le donne dello spettacolo, e magari ogni tanto fanno pure qualche marchettina, diciamo la verità. Questo è assolutamente normale. Qualcuno è inutile fare escort, ad esempio. Ma sì, ma anche questa è una definizione. So, ma... Io sono su questo, sono d'accordo con Sgarbi. Detto questo, Giovanni, mi pare che non siamo nel campo però delle accompagnatrici o delle ragazze immagine, siamo nel campo di persone che sono convocate per le feste, per animare le serate del Presidente del Consiglio. Punto e basta, in mille modi, animare. Sto su dicendo. Quello che succede lì, ci sono diverse ipotesi. Sì, ma voglio dire, è un qualcosa di cui io non mi meraviglio assolutamente. Infatti, ma chi si meraviglia? Infatti, io non mi sono meraviglio. Che cosa non mi meraviglio per nulla, assolutamente no, e secondo me tra l'altro non ci sono nemmeno reati in queste cose qui. Ecco, allora siamo d'accordo, no, perché a me è successo più di qualche volta di frequentare questi locali e di avere appiccicato per tutta la sera una di queste ragazze. Un attimo solo, Nunzia De Girolamo, Striscia la Notizia. Smoccia l'amore. Allora lei già sapeva dove voleva arrivare, eh? Che fa? Nel PDL siete passati dal bunga bunga al boccia boccia? No, sì, gioca da boccia. Lui gioca a boccia. Allora, che si dice? Le male lingue dicono che fa, si vuole portare via gli uomini degli altri. Non sa che Boccia è l'uomo di D'Alema. Ma, meno male che non è l'uomo di Bento. Senta, ma è vero, lei lo ha scelto così subito o essendo lui un uomo del PD ha dovuto fare le primarie? Le avrebbe perse, quindi è facile immaginare. Lei è una donna del PDL, ma è vero che lui la vuol far partecipare a un festino dell'unità? Per carità, no. Per carità. È vero che lei ha pensato basta con i flaccidi, finalmente un uomo con un solido curriculum. Qualcuno dice, è vero, che questa storia è stata messa in giro ad arte perché nel PDL la vogliono trombare, e si può dire insomma che nei suoi riguardi c'è una fissazione bipartisan. Diciamo che ho conquistato la sinistra. Beh, me ne vado, allora che dirle? Auguri e figli maschi. No, stia attento perché i comunisti i bambini se li mangiano. E questo è vero. Ma resta lì. Sì. Sempre. Allora, posso sempre sperare. Sì. Ti faccio un bacio. Diranno che sono fidanzata. Sì, fanno bene. Molto spiritosa la signora De Girolamo, sì, come sapete, c'è questa storia che appassiona. Soprattutto diciamo quelli che seguono la politica, diciamo la verità, non è che nelle piazze non è che si parla di questa cosa qua. Non penso che a Pomigliano si interroghino sull'amore di Nunzia De Girolamo con Boccia, però se tu hai notizie diverse, per carità, dimostralo che a Pomigliano gli operai cassi integrati sono lì a dire: ma Nunzia De Girolamo davvero è fidanzata con Boccia? Cioè è un interrogativo. Però non capisco, siccome la cosa è assolutamente certa, perché è così, e poi domani rivelerà. È assolutamente, tu dici? No, è assolutamente così. Cioè, è certa? Ma sì, ma stanno insieme. Ma la sera va a cominciare. Ma che dici? No, è così, stanno insieme. Ma non c'è niente di cui vergognarsi. Mica ho detto che Cruciani, due punti. Nunzia De Girolamo è sicuramente fidanzata con Boccia. Sì, questo lo dico, lo posso dire, è così, ma non è che lo dico io, è una cosa che si sa già da tempo. Ma si sa dove? Anche una tua amica oggi a tavola, no, a pranzo, eravamo insieme, una tua amica. Non eravamo insieme, la querela, con chi dovevamo? No, adesso tua moglie lo sa, una tua amica, collega, non amica, non mica un amante, ho detto. Ah, sì, una sì. Tua amica ha detto, beh io la sapevo già da un mese giornalista. Questa cosa. La sapevo già da un mese questa cosa, dunque di che parliamo? Non capisco perché i due negano, e questo è il punto. Vabbè, adesso però non possiamo entrare. No, è vero, non c'è l'obbligo di rivelare una relazione. Non avendo commesso nessun reato e non essendo accusati di nulla, non capisco perché chiedi la casa di vetro per la povera Nunzia, degli ambulanza per Cruciani. Cioè, Cruciani chiede, ma è una cosa pazzesca, chiede che Boccia e Nunzia di Girolamo confermino questo amore, però sul fatto di Berlusconi niente. Curioso. Ambulanza, eh? Per ambulanza me. Ci vuole. No, sì, ambulanza per me. Ambulanza un attimo. Per me. Ah, perché ci mette un po' ad arrivare. Sì, sì, ci mette un po'. Però quando arriva, arriva, eh. Cioè, Cruciani è caduto. Cioè, chiede la trasparenza di Boccia e De Girolamo, voglio dire, sono due politici immacolati che non hanno mai commesso nulla, e invece su Berlusconi ci sono mille sei, mille ma, mutande, ma che diavolo cura, ma che dite? La cosa pazzesca. Traffico. Traffico, sì. L'ambulanza va, mentre la città finalmente sa che mostro sei, tu pietà non hai. L'ambulanza va. C'è un attacco di Giuliano Ferrara. Voglio sfuggire a questa cosa dell'ambulanza, sì, in questo modo. De Girolamo, sulla vicenda De Girolamo. Deve confessare! Ma no, deve? Ma no, deve ma confessare. Non ha fatto nulla, no, deve ammettere! Non ci ha fatto nulla, De Girolamo e Boccia, due bravissime persone. Ma io non ho però detto. Però poi ti parli di Berlusconi. No, ma Berlusconi invece come? Dialettica, ho capito. Boccassini, Rossi, di sinistra. Ma io ho detto, non capisco. Boccia, De Girolamo, due persone che si anzi, no, forse si vogliono bene. Io ho detto semplicemente una cosa, non capisco, no, perché una volta che la cosa è venuta fuori non dicono di stare insieme. Ma perché devono dire? Ma devono dire, ma perché devono dirlo? Ma, dai, ma e Berlusconi invece, intercettazioni, robe. No, però Berlusconi invece. Ma è una cosa pazzesca, no? Allora, Giuliano Ferrara, TG1, da gruppo espresso di segno eversivo. Cioè, Giuliano Ferrara, beh, scatenato. Elefantino scatenato. Su gruppo espresso, magari domani risentiremo questa intervista al TG1 di questa sera. Adesso non c'è tempo perché sono le 20:51. Abbiamo ancora diversi ascoltatori da espletare, come dire. Nicola da Padova. Nicola da Padova, dica. Sì, buonasera Cruciani. Sì, sia veloce, mi sia veloce Nicola, se può. Sì, sì, se sì, può, sì. No, può. Ma io quello che l'unica cosa, voi avete appena parlato di questioni che riguardano, non c'è un reato, cioè si dice sempre qual è il reato, ma non è che ci sono sempre dei reati, dobbiamo sempre tenere il codice penale in mano. Cioè ci sono dei fatti che secondo me alcuni personaggi, come si è detto spesso ormai, che rivestono delle cariche pubbliche, ma del resto lo dice anche l'articolo 54 della Costituzione, devono tenere dei comportamenti adeguati al ruolo che hanno. Cioè non diciamo ogni volta dov'è il reato, dov'è il reato. Ma vabbè, d'accordo, è una questione, lei dice, no, anche politica e anche di decoro delle istituzioni, eccetera eccetera. Va bene, ma infatti è quello che dicevo, l'unica cosa che volevo dire è questa, cioè non deve esserci sempre per forza un reato, ci sono anche dei fatti di costume che secondo me per persone che ricoprono ruoli importanti a livello istituzionale non dovrebbero avere, va insomma. Bene. D'accordo, grazie, grazie. Buonasera. Danny, provincia di Teramo, buonasera. Non c'è Mirko da Milano. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo scusarmi perché non ho sentito l'ultima parte del programma. Ma non c'è problema, Mirko, lei deve subito andare al sì, subito della questione. Sì, volevo dire che la gente si indigna, come ho sentito prima, tanta gente si indigna per Berlusconi. Sì. Ma io dico, ma povero Silvio, ma scusate, l'hanno già condannato, l'hanno già, prima ancora che in realtà abbiamo fatto tutto, ci sono delle prove, ci sono delle cose, e stanno facendo il gioco dei magistrati. I magistrati ma hanno buttato la palla ed è così, la gente già si sta indignando per qualcosa che ancora è tutto da dimostrare. Il discorso è da dimostrare se c'è stato sesso, lui ha fatto delle feste, dico povero Silvio, ha fatto delle feste. Poi ho sentito il ministro Rotondi e vi dico, è stato molto fantasioso e molto divertente nell'ultima parte delle cose che ha detto, che ho trovato estremamente divertenti. Va bene, grazie. Antonio da Milano, velocemente, 30 secondi e poi dobbiamo chiudere, eh? Antonio? Due nomi, Wikileaks e Panit. Wikileaks non aveva torto allora quando aveva detto che c'erano dei funzionari che dicevano già queste cose. Panit, l'avvocato onorevole che ha parlato prima, sì, a posto suo anch'io sarei convintamente mi sarei convinto della bontà delle carte che scagionano completamente Berlusconi sul fatto di Ruby. E perché? Perché non so se altrimenti